Naturalmente se ti sento, buonasera. Ma qui Santiago la 7 e l'8, la radio è bassa. Se ti avvicini sì, cambia di parecchio. Se avvicini sì, è buona, è ottima, è spinge anche. Guarda, il microfono non è regolato al millesimo perché stavo facendo altre cose, quindi sarà senz'altro basso. Ho abbassato, fammi vedere cosa ho abbassato. Ne ho abbassato di cose. No, questo qui no. Aspetta. Qui. No, sto uscendo. Sì, forse c'è qualcosa tipo. Guarda questo passaggio. Guarda quest'altro passaggio. E guarda quest'altro passaggio. E guarda quest'altro passaggio. Beh, perché c'ho l'equalizzazione in trasmissione, quindi per quello che è cambiato. C'era pochi di bip, accidenti. Quello diciamo bene, dai, almeno uno. Sì, il segnale è 8 spaccato, perché lo dà anche sul computer il tuo segnale, capito? 8 spaccatissimo. Stai provando dentro che cosa? Ti vuoi? E lo fai. No, adesso c'è, ma sento il rumore di telefono. Ti devi procurare due radioline PMR, così una te la metti tu lì e l'altra te la metti in casa. Troppo bassa la radio, troppo bassa. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lo fai? Boh. Non so che dire. No, adesso no. No, non c'è l'eco dentro. No, male, male. Prova a attaccarti bene nella capsula, vediamo un po' se cambia qualcosa. 1, 2, 3. Lo so, cazzo, ma mi devo attaccare però, lo so, vabbè, quello lì è recuperato, già te l'ho detto, come. Ti sento sempre un pochino così, non è forte come io vorrei. Sì, un pochino. Sì, no, ci vuole qualcosa che spinga di più, o almeno come radio. La legge è buona, diciamo, per essere lì, ma un pochino in più potessi averne. Piano piano. E allora accendi il fuoco. Ma che vediamo tutto. Va bene, accendi il fuoco. Che cosa? O io non arrosti allora. Vabbè. D'accordo. Se ci sarà qualcuno ascoltando, so che non entra. Adesso, accidenti, ora che è passato il QRM, caspita, ce l'ho a zero, porca miseria. Dai, Sanremo, ma neanche se ne pagano, guarda. No, guarda, se si riusciva a collegare quell'altro microfono lì, quello già è forte. Sarebbe stato eccezionale, proprio eccezionale. Però diciamo che va bene anche questo. Dovresti avvicinarti di più per avere poi il robustezza della radio. No, sto facendo male. Sì, la batteria scarica, sì. E non vuol dire che sì, si accende, ma no, sto facendo male, ci sono scariche. No, adesso no. Vabbè, dai, io rimango un altro pochino qua, dopodiché fra mezz'ora chiudo, mi guardo un film e poi mi dormo. Va bene, ciao, buon corretti, buon carico. No. Avanti. No, aspetta che provo il microfono, che ho provato a metterlo apposta, poi se va bene. Hai capito? Guarda, ti faccio quello al telefono. ciao a te, stavo ascoltando con l'altro amico, ciao Gianni, arrivava a 5:30, chi era? Elio. 5:30, e perché quando c'era Antonello arrivava a 7:30 con la Ringo? Marco, non lo so, non lo so, qui mi arriva 8, 8 come segnale, non ci arriva neanche a 9, quindi non lo so. Sì. Sì, Gianni. Mamma mia. C'è Alternata? No, tuo figlio sento. No, mia moglie che si è al telefono, scusa, c'è Alternata al microfono. Dove si dà un po' di importante muta. No. Finalmente. Sto uscendo, sì. Sì, sì, sto uscendo, ma non ce n'è Alternata. Cappa. Ehi, già, che apparato è? È il solito con l'MB più 5. Ehi, già. A chi, Marco? No, no, al nemico di Gianni, cosa gli facciamo? Gli ripieghiamo la macchina, non lo so, gli tagliamo le gomme. Boh, no, non saprei chi è questo nemico di Gianni. No, è un vicino che ha deciso di rompere il cocones, capito? È un rompiballe di turno, insolito, è l'unico del palazzo, peraltro. Cosa vuole, in definitiva? Fornito delle lanterne. Per quale motivo, già? Perché dice che io parlo e non disturbo a parlare. Questo è vero o non è vero? No, assolutamente. Dice che io sto fino a luna alle 2 di notte parlando, invece questo non è vero. Ma lascio perdere. Lascio perdere, già. Io gli avrei risposto un po' meno diplomaticamente, io gli avrei detto vai e fatti vai in culo. Già, c'è un vigente camera, scusa. No, è uscita mia moglie quando stavo provando il microfono. Come sta andando, Marco? Allora già, sì, è abbastanza forte, però la qualità, la timbrica non è limpida come il Magnum. Infatti è quello, non si può usare adesso. Come non c'è più? Il Magnum se n'è andato via. Eia. Ah, sempre per questioni a Uma Uma. Io chi mi registra che li voglio sentire cosa ho combinato con questo microfono. Già, ti registro io e ti mando con che cosa? Dove ti mando? Su WhatsApp ce l'hai? No, fammelo sentire qua. Buonasera Luca, aspetta che ci ti registro io. Via, ciao Luca. Mamma mia, come entri tu, ci spaccia l'altoparlante, hai una modulazione fortissima, fortissima. La mia come è brutta? È diversa già, diversa, però registrando e mandando con l'apparato distorce, bisogna farsela sentire in verticale, registrare e poi lo senti verticale. La timbrica è diversa, è effetto presenza come l'altro apparato, no? Io devo ancora regolarlo questo microfono, l'ho aperto, l'ho controllato, ho guardato cosa poteva essere e poi l'ho richiuso. Guarda che va bene. Eia, prendimi più 5. Sì, avevi più 5. Stavo andando tutto quanto gracchiava, faceva. Come sta andando adesso? Bene, avevi più 5, vai a coccati. Già. Numero 60, mi vai. No, avevi più 5, pensa almeno. Avevi più 5. È vero, però lo deve riuscire a trovare una regolazione giusta là. Aspetta, la proviamo. Allora, così a zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Come va? Meglio così o chiuso? Dove? Claudio, guarda adesso. Vittorio, Vittorio, se no sei vivente con una tambulana. Vittorio. Io a uno. Così a uno, guarda. Ah, ce l'ho così, sei in una via di mezzo, altrimenti sei dentro una tambulana. Pagala. Va bene. Lasciamolo così. Gianni, ciao Claudio, se vuoi fare, se vuoi sentirti, prova a fare, mettere tono 1, tono numero 1, poi metti tono numero 2 e fai il passaggio, tutto in un passaggio fai, e ti registro, dai, te la faccio sentire verticale. Lo registri cosa è, la tonalità giusta, non la puoi mai dare. Cioè, fammi provare, voglio sentirmi tra, questo è 1, questo è 2, questo è 3, questo è 4, questo è 5, questo è 6, questo è 7, questo è 8, questo è 9 e questo è 10. Ok, naturalmente non te lo ritrasmetto qua già, e non è che vari molto, io mi ricordo quando avevo l'MP5, dal tono in basso e alti c'era una notevole escursione. Con i toni alti la modulazione era finissima, quasi nota meno. Una cosa invece, ma l'apparato su cui lo stai usando, se il 48 plus, che non abbia il trimmer della modulazione chiuso e quindi non riesce a spingere. Ho il mic gain al massimo, perché basta. No, non quello già, però mi ricordo quando avevo certi apparati che avevano una modulazione già chiusa col trimmer interno, potevi spingere quanto volevi o regolare con il da tavolo l'MB più 5, ma non variava. Magari quello è omologatissimo, non li hai fatto, quindi provaci pure che sia da aumentare la modulazione interna. No. È stata fatta. Diciamo invece Marco al contrario, che l'MP5 c'è con la radio, non va bene. Può darsi pure, non lo so. Io l'avevo provata su, sta parlando di 25 anni fa, Claudio, non mi ricordo nemmeno. Uno era multimode. Allora, il multimode 3, quando avevo la modulazione chiusa, era terribile, usciva tutto vibrato, tutto distorto. Invece aprendo il trimmer della modulazione, dietro l'indicazione di Pomponio, con l'MB più 5 andava molto meglio. Non spinge col microfono, con la radio, assolutamente negativo. Un po' più di acuti quando chiude tutti i toni e basta. Se no tende a calare, tira via gli acuti, c'è tutto in bassi e non abbassa la modulazione. Ma tranquillo, ho scritto tutto io sino a 250 kHz e non c'è niente da fare. Proprio a zero con l'FT1000 sino a 2004, non apre la modulazione. Scusate un attimo che ascolto la registrazione. Che radio è quella di Gerardo? Buonasera. Ciao Sandro, che radio è quella Gianni? Gianni, lo sta cambiando radio Gianni. Avanti Sandro. Ma, buonasera Claudio, mi sembra di aver capito, se Gianni e Marco. Ciao Marco, buonasera, a per Mike. E quella Gianni. Milan. Ormai c'era un periodo che spingeva con la radio, con sempre con quel microfono l'ho usato. Appa. Ma adesso chiusi, ci dai tu un microfono. C'è un microfono normale, l'ho tolto quello là. Se non vi piace, uso questo qui che è normale, che va bene lo stesso. No, non devi dire non ci piace. Si può provare una via di mezzo. I ricordi gli altri rispondono. Per conto mio è meglio con la tonalità 1. Poi. Per gli altri non lo so, io sai con cosa ricevo, sai che sono molto preciso nel dare i controlli radio, cioè per me una via di mezzo è a 1 come tonalità, mi chiede al massimo, preamplificato al massimo, è una via di mezzo, medio bassi, medio acuti vanno bene, ma se lo porti a 10 ti togli tutti gli acuti e hai solo bassi, non va bene, non è bella la modulazione, chiara ma non spinge. Se vuoi rifare la prova, per me c'è anche Sandro a lunga distanza, per me va bene il microfono, se lo tiene a 1 come tonalità e al massimo come potenza va bene. Vabbè, certo, volevo vedere anche lo strumento perché non sta andando. Adesso che l'ho chiuso tutto quanto, non questo strumento. Guarda, mi risalne di male in peggio, dico. Buonasera. Talmente forte che non ha praticamente la desaturazione. Poi i bassi c'è da te, siete vicini e senti solo i bassi. Però da me le tonalità acute non si sentono, quindi. Il mio trattore come sta andando, Luca? Ciao, Antonio. Sempre bene, ma se non avrebbe dato problemi, diceva detto. Sentito anche a te, dai, cordialità, avanti. su che microfono normale con l'up down eccetera eccetera, sono solo un 5W, non è che non sto più usando altre cose, non so se ho sentito, è successo e sono un po' così, ho venduto tutto quanto e buonanotte. Tu già, due battelle di sì, cos'è successo? Non lo so, perché io non c'ero andato per sé. Cosa è successo? Che sul massaggio di sempre ha fatto la riunione condominiale, ha chiesto a tutti di farmi togliere l'antenna perché cerchi un disturbo quando parlo, non se mi ha senso che quando sento la mia voce, capito? No, ma sento la tua voce perché c'è in camera da letto, perché cosa? Ascoltati questa radio, buone dire in cucina, buone dire in un bugiolo, buone dire in un salone, c'è i mobili intanto con le ruote, cosa ci vuole, allungare i cavi, fare una canaletta fatta bene e togliere la radio, già. Cosa vuoi ti dico? Se la gente è pazza, non si può fare niente. Sono in cucina, in sala, mi dà fastidio, c'è il televisore, tutto quanto. L'ho messo qua perché l'ho preso più riservato, potevo starmene tranquillo, capito? Rilassato e tutto. La radio è fatta per rilassarsi, non per uno c'è il televisore, l'altro per il telefono, capito? Mi gira le scatole. Gianni, ma questo scemo cosa va a dormire alle 10 di sera o alle 9? Presto, perché lui si alza verso le 6 e mezza. Però non fammi degli altri perché è russa come un maiale. Allora gli dici che se non riesci a dormire perché ti sente parlare, si prende un pavo e vedrai come dorme. Pulisci un tappo in bocca, che la notte non fate dormire all'altro con le sue russate. Metti il polizionolo nel muro, guarda che non senti un cazzo lui, già sto dicendo io, polizionolo con la corsa. Con la ventina e sei a posto. E gli metti l'intoppo, come fanno tutti. E hai giocato il muro. Invece il polistirolo in camera da letto, ma in avvini. Noi stiamo facendo le salette di un tempo, no, lì. Che prima, no, così. Oppure ci metto i cartoni delle uova. Ma c'è nulla, tutto, metti un polistirolo che è lungo mezzo centimetro, non fa un macco, come ti dico io. Il polistirolo con l'intoppo e tu sei a posto, non ti va a preparare nessuno. Siamo. Diciamo Gianni che lui ci riferisce alla camicia tua, quindi ti devi fare un altro, praticamente una camera d'aria, quindi forattini allargati 10 cm, tutta parete, o parete lato letto, parete lato radio, sino a su, in mezzo al polistirolo, puoi ricamiciare tutto, intonacchiare. Cazzo Antonè, ma te guardi uno deve prendere, cazzo, 3, 4, 5.000 euro, ma fa un travaglio del genere, a chiudere di gardena, si gocca le denti di gira, ora i nuovi di gira. La legge impone che sono 5, io a casa mia faccio il cazzo che pare mi piace. Mezzanotte 5 devo smettere, perché altrimenti chiamano i carabinieri. Ok, non alle 9 di sera, alle 9 di sera mi metto la faccia del culo. Brutto però. Anche bisogno di fare una roba camera d'aria, non c'è mica bisogno. Ci va solamente il polizio agganciato al muro, al forattino. Dopodiché ci mette una lettina, con l'intoppo è a posto, basta, il muro è isolato, non ci vuole nient'altro, non è che deve fare chissà che cosa, sono tutti così. Qui c'è il muro dove abito io, nel fianco, che è fatto così, mica ci hanno messo per camera d'aria, no, secondo te, per isolarlo. Mi ha fatto un foglio di polizia d'oro, che sono largo un centimetro e mezzo per dire. Poi ci hanno messo una lettina con l'intoppo, basta, rimane isolato, non si sente niente, non c'è bisogno di fare una cosa del genere. Anch'io ho quei problemi, purtroppo, non qua dove modulo io, ma nell'altra camera dove dormo. E capito che io sento a lui e lui sente a me, per dire. Se lui fa ciù, dico salute e mi risponde, capito? Eppure c'è solamente il televisore e basta da quella parte, non c'è un altro. Ma capito, dove c'è il baracchino e dove ha fatto dove c'è il bagno lui, e dalla parte opposta, e quindi non me lo prende le balle. Capito? Però, te lo sto dicendo, basta, si spende poco, si spende, non è che deve farlo per camera d'aria, non c'è nessun bisogno. Lo si fa addirittura anche per l'esterno, questa cosa qua, per l'umidità. Non è quello il punto è che uno in un condominio deve saper convivere con la persona. Sento rumori di bambini che corrono, e quando c'è gente fanno cena e cose, ma non mi sono mai sognato di nulla, io vivo e lascio vivere. Invece non sono tutti uguali, capito? C'è chi gli piace rompere le balle agli altri e non sa cosa fare sicuramente. Ti ho capito, guarda, quel problema ce l'ha già, lo sai, non è che ce l'hai, sapete tu, no? Io ti ho capito a te, quindi. Ma per non rompere le balle, te lo sto dicendo. Infatti quella cosa che ti ho fatto vedere non ti sente per niente, a meno che lo sposti come Don Claudio, lo metti in un'altra camera e se la abbia in culo. La faccio invadire in cucina, il baracchino, non ti costa niente non metterlo in cucina. Ho un'altra parte, io ho fatto così, la camminata io dove non vivo, voi ascoltate i baracchi del cessamento del televisore e basta, e c'è un'altra cameretta dove c'è lui, in pratica lui c'è un bagno, a me non mi sente parlando da baracchino qua. Già l'hai visto che tu l'hai visto anche Claudio la camera, quindi a me quando lui non mi sente, non si lamenta. Però a un certo punto, per dire, sono portato l'altra parte, mi avevo rotto le balle, perché così, sono buoni di bertola, non ci puoi fare niente, o già, sono buoni da 6 mm, 3 mm, di falattina, ma questa cosa mi faccio? Non ci puoi fare niente. Posso? Anticamente come facevamo le salette mettevamo i cartoni delle uova. Sì, ma adesso usavo il polifirolo, cioè con il polito fino in fino, no? Costa una cazzata a poco prezzo, da bricco. Quando poi diciamo da 2-3 metri, 4 metri, adesso non mi ricordo la verità. Li metti quelli, c'è il collante, dopodiché li metti questa specie di rettina, con l'intopper, e lui non si sente più, sto sul centro. Elimini così i problemi del rumore, e te lo fanno anche all'esterno addirittura. Adesso ormai, come visto hai delle villette, non usano più il pimentone, cose con l'intona, non usano più il globo, non usano più, mettono questa roba qui, plac, e fate l'intonaco. Hai capito? Per quello te lo sto dicendo, isolantemi, non è che te lo sto dicendo per scherzo. Perché usiamo quello, costa poco e è veramente buono come cosa. Lo usa anche per l'umidità, per dire negli appartamenti, se c'è qualcosa, che c'è umidità esterno all'interno. Il mio palazzo è fatto così, dalla parte dovente della cancelletta, tutto quanto ho fatto di questi logomi, se non te ne sei accorto. Se non te lo faccio vedere io, c'è più il cacciavito, lo faccio vedere che è il polizio quello che c'è all'esterno. Non è il muro vero e proprio, però adesso dopo 2 mesi, perché entrava acqua, entrava umidità e cose del genere, per quello posso vicenda. Boh. E vabbè, comunque, il problema non è quello lì, il problema è che lui è stato sempre così, anche da quando Manuela era piccolina, che era neonata, che piangeva, si metteva a voci, mi sono rotto le balle, qua, là, bum, ma poi si trovava in camera e si diceva, io abbraccio una cosa, e non già l'avevo detto io. Come faccio ad andare a bere con i garroni? Non ho capito. Si dice, anche se va a vedere così, perché sì, perché tu ti metti a gridare, a parolacce, dopo ti trovi in strada e fai una persona diversa. Da giorno non mi ha potuto vedere perché ho detto così, capito? Sì, vabbè, comunque Antonio, non è questione di mettere polistirolo qua e là, è stronzo lui, capito? Poi quella del baracchino è solo una scusami. Ricordi logica, Gianni non potrebbe parlare nemmeno con la moglie in camera sua perché quello sente. È una scusa quello del baracchino, lascialo. Mi c'era uno qua là, così, un certo Benela, era un coglione, scusate il termine. Era lì se si riveli, ma poi lo lasciavano cantare, capito? Così devi fare tu, devi lasciar cantare, perché a meno che tu non abbia fatto una presa da ballo con suoni fino alle 3-4 di mattina con stereo, non ti deve dire nulla. Mi ha detto Giulio, la voce umana non disturba, bisogna che ci siano un certo numero di decibel per disturbare. Ma che cagare, ma io parlo finché riesco, canto. È che mia madre mi rompe le palle, per esempio, se io avevo cantato una canzone e mi disturbo a lei, mi dice senti a me, siete più a me che alla televisione, no? E allora faccio rispetto per lei, ma se vuoi stato qualche altro, anche a te prima andati, dopo, anda a contare, smetto. Ogni giorno, dice, ah, quante le fai? Ho problemi io, mi ha detto. Quindi non ti faccio il baracchino, almeno quello faccio ogni giorno. Pago 50 euro 10 minuti, almeno se una soddisfazione la avrei. Sarebbe stato detto, lo dico io. Oppure, c'hai il computer fisso, c'hai? Anche la 20 giga, c'hai? La disk e il computer fisso? Ma la disk, c'è una la disk? Aspetta, questo non so qual è. Vieni, te lo prendi. E quanti giga è? So, vieni, te lo guardi e te lo prendi. Mica ti dà una RAM al posto della rischia. dicevi sempre che devo mettere dei programmi, capito? A parte devo provare un PC fisso, ma ci manca il dischio. Diciamo di carriera, ma voglio mettere Windows 7 e più leggero però. Io tu lo prendi, allora puoi pensare, c'è un negozio vicino a te. Sì, devo salire lì al quadrato, se non hai tempo non permette, ti chiamo, se non mai che poi ti trovo, sarò vuoto. E poi devo passare ai cinesi lì al quadrato. Io vabbè, non è te, non ci sono già, lo sai, perché sto facendo una cosa. Comunque sia, se vuoi dal disc, lo so, se non c'è al limite, vieni che lo metti, cosa vuoi dire? C'ho le altri componenti di, c'ho una memoria RAM, cioè mi è rimasta, poi c'ho un computer intero, diciamo, là, dove c'è la per la TV e il resto, c'è il coso per il DVD e per la TV e per il resto, vabbè, tu lo vado tu, non lo so. E va buona, va bene. Ok. Allora Gianni, iniziamo con le rappresaglie al tuo vicino. No, non ci si rappresaglia, questa pure una bomba, come ti pone molto la macchina per incare giù la macchina. Ma cominciamo a corrigare la macchina, poi si insiste, gomme tranciate e poi via via venire. Facciamo come a Nuro. Come la viene della via Rugabu. Il problema c'è, cosa è? C'è la iella, no? Che ci mette la camera nello stesso punto. Ah già, non ho capito però se è a fianco alla tua stanza o è sotto. Sotto il tuo palazzo, non è mio. Però è attivo, il muro di separi e poi c'è la sua. Ascolta, e i muri quanto sono spessi? Da appartamento a appartamento o da appartamento a palazzo, quanto possono essere? Alla fila di forattini. Ma se lui sta cavalcando, lo senti allora? Lo sento quando russa la notte, sembra un maiale, c'è una rossata che non ti fa dormire a volte. Ascolta, ma è grande l'età. Ci avrà un 57, 58 anni. Ma è quello abitato qua, ci avrà le accucassi. Poi una testata mi. Di quelli che gli piaceva il prepotente, che gli comandava e fuzzi. Ne abbiamo uno così nel palazzo, ma lo lasciamo cantare. Ma che lo lascio cantare? Fino a quando non mi rompe, perché adesso ha esagerato a organizzare una riunione per esprimere questa cagata. Ah, poi già, facciamo girare poi, ti volevo dire, ma tu gli hai spiegato che come lui paga l'URAR per vedere quello schifo che hai, tu paghi la concessione, diciamo, l'autorizzazione a usare l'apparato, quindi tu hai diritto di modulare quanto vuoi, come lui ha diritto di guardarsi la TV. Non gli ho spiegato nulla perché non c'ero, io ho dato la delega a un condomino, il mio figlio, cioè questo condomino è venuto e mi ha riferito tutto, no, perché come è giusto fare, mi ha detto io non ho firmato perché ha messo un milione di disturbo come hanno fatto gli altri condomini, sono rimasto da solo, capito? Ho capito, allucinante, avanti Claudio. Eccetera, che poi passano lì e poi c'è un foro c'è l'acqua, no, che c'è a fare, non puoi già mi si è lagato tutto, non puoi già dire la cosa, e tu non puoi già dire la cosa, ma chiudo la finestra, non te ne entrare, non c'è tempo, lo chiudo. No, ti dico quei denti, ma no, ti dico quei denti io, quando c'è dentro, mi piace, non c'è problema, non mi piace, chiudi la finestra, così l'acqua non ti entra dentro. Io si attaccherà tutto, dove? Ah, tutto bravo. Io sono molto drastico, cioè non è che dopo che spiegazione mi capite. Questo del mio piano, è roba mia, quindi io posso anche tagliarlo in due e innestarlo e pluviare, non so che ti dici. Non lo racconta nessuno, condominio, non me la fottiamo da me. Quindi quando ne ho voglia lo chiudo, adesso lascio stare aperto perché devo fare altri lavori. Quindi se piove, vado a chiudersi la finestra e la colonia netta, la ragazza me la fotta a me. Gli amici a Edo, no. Che stanno sempre controllando e facendo. Anche la poco, quella del tuo piano, non ho piano. Molto gentile, però lo sanno che sono travagante, quindi non è che follia, ci hanno le balle. A volte rispondo, a volte non corrispondo. Siamo trovati nel sensore, signor Carlo, lo sa che l'altro giorno quando girava l'antenna sentivo questo scusa va, glieli compro i tappini, non capisco, i tappini glieli compro, così non lo sento. Cosa ti... I tappini, se ce li fanno i tappini, e la Lecce ce li buono, ne dice la Debuchi, la Lecce, così non li prendono un motore di l'antenna. Andi a volte. Ragazzi, la Debuchi non avevamo 80 anni, ma non mai, cioè, ma 80 anni, non vedi? Tocca accompagnarla e l'ascensore e intende l'antenna gli rende. Roba la mattia. Non la prendo così perché tanto lo sanno che no. Nel buco la Juga, capito? Ce n'è il condominio, ce n'è quello. Non me la fatti nulla a me, no. L'importante è non disturbare, è chiaro che io ho la mia stanza, ma è quello di sopra, che dorme in questa stanza di sopra, mi sente, se non c'è paura. Se no siamo detto niente nessuno, forse ti ripeto che ho un carattere diverso dallo due, comunque. Lo so, ma per il momento non mi ha mai detto niente nessuno, pure. Se mi dicono qualcosa vuol dire, invece di abbassare il volume lo sollevo io. Noi la bacio mentre vai giù, poi va tuo bicchio. Avanti Antonello Alessio Pomponio, e Boressirola, che trovo in culo Boressirola. Uscirà da 2:10 e non tenderò il rumore in chi si aggaggia. Ui ui. Ma avete presente il rumore che fa il frigorifero, no? Fa quel rumorino impercettibile, no? Da mia zia, una casa di 100 anni fa, no? Quindi con muri spessi e tutto, quello sotto dicevi di nato sentiva free. Praticamente dice che sentiva il rumore del frigorifero quando raffredda un pochino, no? Figurati che cosa si è attaccato questo. Guarda qua in questi appartamenti da sempre ho sentato solo un po' così, forse va giù un dito mio o chi ci vuole poco, ma l'udito è una cosa allucinante. Ogni venerdì al quinto piano c'è festa, perché c'è una famiglia che sono molto uniti, quindi sabato lavora nessuno, invece il venerdì e se vuole giocare con la PlayStation ma fanno sino a 1-2 di notte. Io li sento come quando vincono, ehi, stamattina ci ho beccato uno dei migliori, te l'ascolta qui, dica, un ragazzo molto attivo, c'ha un 26-27 anni, però è tipo molloso, no? Ti chiudo, ci mette Luca, che sta sempre in movimento, non si ferma mai, sta fermo, non può agitare, sta fermo, mi dice prendimi la patinetta, c'è anziano, è fermo. Dimmi una cosa, ma chi è quello che vince le tue fratelli che si muovono a bozzi? Io. Mi avanti te lo dico più, tu ci sei Vennari, canotti, oggi me ne ho trovato ieri, tanto c'è venerdì, ti muove Don Rabozzi, atto la PlayStation della volta a 1000 e un pezzo. Cazzo, ha preso e fuggito. Allucinante. Ma e quanto sono le pareti là? più o meno, almeno pareti di lato oppure sopra e sotto, quanto è di spessore? Come altezza? No, no, lo spessore delle pareti, per esempio, da appartamento a appartamento e da sopra a sotto, anche soffitto e pavimento. I tramezzi sono tutti forattini con tamponatura da, mi pare, da 20-30 cm. Poi sono i vani ascensori che separano, e poi il resto è tutto cemento armato. Da piano a piano sono tutti sono state fatte il cemento armato, perché anche i sismi, questo palazzo, non lo posso fare 30 metri, devi farlo così, anche i sismi, questo palazzo. Io quando mi trovo al nono piano, il primo anno me ne volevo scappare da qua, perché quando c'era maestrale forte, ma maestrale forte, no, di polizia, al nono piano, sembrava in nave, si sentiva parato e si muoveva. Ma è a molto senso da noi, che non è zona, che da noi è zona assestata rispetto ad altre parti. Ma è legge per i crulli, per l'assestamento, deve essere fatto così. Non sono solo 30 metri, questo è un mini grattacielo, 45 metri alto questo, non è buccia di giorno. E quindi a mano piano lo senti sembra gli oscilli, che si muove il palazzo, capito? Un senso di, però è così, è proprio un'oscillazione della struttura, ed è fatto apposta. Io avevo chiesto all'ingegnere che c'è qua, io direi, è abbastanza conosciuto, non dico no, è figlio di Marrosio, per capirci, e mi ha detto, è così, quando si prende l'altezza le quote hanno un diverso, una diversa linea, tutto l'assettamento del palazzo è fatto in modo diverso, e poi col cemento armato ci sono queste oscillazioni che permettono al palazzo stesso di non avere crepe, non avere problemi, perché è chiaro, una certa altezza che deve essere così. Io ho giocato in giovane, ma mi ricordo che ogni giorno sapevo che il grattacieli da 50 metri in poi avessero questo tipo di però, invece è da 30. Comunque è così, caro Gianni, fammi lo conosci a me che signore, in quel momento la diamo battaglia che era mia fratella di Basselli. Ma questo è quello che bussava i muri, e lui non si è fatto pure il Bassello, che non c'è più. Dopo due mesi se n'è andato, tra l'altro se ne doveva andare, è venuto un avvocato a abitare. No, e tu fammi lo conoscere a me questo. L'ultima sera, sono 9:30, ci mettiamo a parlare lì, parlo io. A voi quando tocca il muro lo rispondo io, Edo. Avevo già mi dici. Ma dimmi tu che roba da matti. Si è aperta la finestra, ce l'ho fatta a cagare, mi hanno detto un bel di parolacce, mi vergognavo anch'io, sembravo uno scaricatore di posto. Ma me l'ha fatti dire. Mi ha detto, se ero un bizzino della sera gioca ancora con i baracchi. Va bene. Mi ha detto, se volte una montata invece di un bici. Ha trovato un asso sul rago, vedi. Io. Si tiene sveglio, si sente proprio. Stava proprio roba maialesca. Mi sento da cazzare da dentro in mani, lo mangiano, gatto, mi addrobio, gatto, va un berro. Adesso che c'è un bel confronto, sotto le mie abitazioni, che non mi dico il nome, ma dove andiamo, come è che mattina siamo visti, come è meglio che a pallone, ma cosa hai mangiato una settimana, perché, cazzo, tu la mai, aiuto, adesso ti vogliamo una gaimata, cazzo, ma che dimmi un ampio giuraggio, inizia a ridere, cazzo. Quello mangiano e lo scarico. Pure mi ha toccato mica mattina va al lavoro, no? E lui deve essere in campagna, lo so, è 6:30. Deve basta che sa filosofia alla Beethoven, cazzo, deve che ti gaghi, bro, pregnante, A me che già mi blocca a comprare le radio qua, perché ci sono sempre queste persone che si fanno rimanere fatti su e cose. cosa militare, magari la butta e dice a farmi cavare l'antenna e sono tutti pesi fatti in vano. Oh, non esistono. Già, diritto di installazione dell'antenna, tu paghi per usare la radio. Ma il tetto di chi è, per curiosità? Il tetto è diviso in parti uguali, ogni condomino c'è la sua parte. Ah, ho capito. No, da me è diverso. Qua il tetto è diviso in due, non ce n'è tetto, è terrazza. Metà era di Seu, che adesso non c'è più, non sa che fine abbia fatto. L'altra metà è di Piras, un tipo di desulo, montagnino. Però ha detto tranquillamente di mettere l'antenna. Meno male che non c'è più l'analogico, perché magari mettendo il linearetto sicuramente con l'analogico avrei disturbato appena appena. Col digitale nulla, non me l'ha detto nulla, col digitale terrestre. Per fortuna mia anche. E tu dici potevi mettere anche un'antenna migliore. Già che la stava piazzata ci piazzava direttamente una mantova e li riandava. Però mi ricordo questo episodio del cavo che è stato sollevato, diciamo, hanno tolto delle, l'avevo legato ad altri pali che ci sono di golle, era per terra, non per lasciarlo mobile, l'hanno strappato a degli altri pali, avevano strappato una frattura e buttato il cavo un po' dall'altra parte del parapetto, spero che non sia lui, se no tocca parlargli. Invece quando eravamo in Viale Mameli, il tetto era di proprietà nostra, proprietà, probabilmente di tutto. Poi se ci stavano le antenne TV degli altri anche. Pagato. Vabbè. Insomma, se non disturbi ti dice niente. Io vabbè, ho fatto tutta la rifugia, lo sa Claudio. A tutto forfè, mi sono fatto prestare le chiavi da quella dell'ultimo piano perché ce n'era solo quella della mansarda, perché in caso magari ci sia un'antenna che si accadena, una cosa, deve avere le chiavi per salire su, deve essere in pericolo. Me le ho fatte prestare quando non c'era il marito, perché il marito era uno stronzo di prima qualità. Lui invece con me aveva simpatia e cosa, e casco me ho preso le chiavi perché devo controllare l'antenna del televisore che sta andando male. Sì, ho preso, mi ho fatto il duplicato, glielo ritorno, te l'ho ringraziato, e poi gli ho fatto questi dubbi qua. Un'antenna sa essere montata come la tua, bene così, non ce ne manco una, ma le muovo a girare le balle. Gli ero griglia, te lo dico così, che gli ho messo anche silicone nero per non vederci lo stacco dal coso al cattravo, la bignoleria. La bignoleria, pensiamo la pompa negli agganci dei cosi, ma che cosa? Si dirà anche Dressobra, Dressotto 4x4, adesso non lo ricordo, Tonairo con i gancetti, con i cavallotti, cioè ha fatto bene quel lavoro, hanno fatto un grande lavoro, quindi hanno poco girare balle, non cadrà mai l'antenna è sicurezza, ma è fatta bene, non danneggia nessuno perché sul torino l'ascensore, ha fatto veramente bene quel lavoro, quindi cosa ha detto Bugit non lo complice. 9 tiranti, che correndo, 9. Sai, no, ma lui non è che lo disturbi. È la mia voce che lo disturba quando parlo. E voilà, se è per quello già. Trovati una soluzione, parlane a casa, trovati un angolino da poter mettere quel carrello e fai il sacrificio. Quando vai sono dei tegocchi. Una bella sedia con le ruote, spalliera, braccioli, pensieri, parli, in modo che lui non ti senta, per me è ideale nel salone, cioè il mobile è bello, te lo sposti e si cambia la direzione dei cavi, e si abbiglia le luci, cosa devi fare? Se quello è il problema, trovati una soluzione lì, quella è una soluzione fattibilissima, capito? E tu mi dici, vabbè, ma io mi sdraiavo, mi rilassavo, già, non tutto si può avere, non lo avete voi, se questo è un imbecille, togliti da lì, togliti e si trova una soluzione diversa e si apposta, quando una gana ti fai... L'oretta tua, quando non hai gana, ciao a tutti, lo faccio io, quando mi sto portando seduto. Ci ha voluto ma nonostante abbia una tanta tutta per metterlo, anche io mi stanco di stare seduto, una tanta comoda, una poltrona, molto nei telegrammi d'ufficio, quindi c'è sempre il però. È bello, piacevole stare a nanna, coricato, sdraiato, senza problemi. Beh, è un'altra cosa. No, ma io quello che dico è, in casa mia non posso fare quello che voglio io, ti devo dettare legge agli altri, no, non esiste. Ah, già, ricordati che lui, russando forte, disturbate, quindi non deve dire nulla, nulla. Infatti, che non rompa le balle. Tanto non ha fermato nessuno alla riunione, hanno fermato solo per le riunioni fatte e basta, non hanno fermato certo per quello che ha chiesto, quello che ha chiesto lui. E allora già pace in patente, lascialo perdere e mandalo a quel paese. C'è un altro certo attentato, temporale, aveva telefonato tutti quelli dei dintorni per fare una specie di comitiva per farmi togliere l'antenna, e quello mi disturbava il televisore, il telefono cordless. E avanti. Ciao Claudio, ciao Gianni, ciao Paolo. Addio. Ma se tu hai... L'amico mio è morto, è quello che ha passato la pagina per i canali. Di quello già è passato? No, non sto parlando di quello. Sto parlando di tutte altre cose. Ma che cosa c'è temporale fuori, non ho capito. Pensavo che le parole temporale di Pastorino. O che come la sarò... Non so se sta giù questo, pure io sono un salito, nonostante mi hanno pregato di stare in chiuso, però a me piace, ok, di quello, no, ti avevo capito, sei di temporale, Pastorino, sì. Si è impiccato, si è messo la busta in testa. Ma è chi questo? Temporale, uno che rompeva le palle, che accedeva la pila quando rientrava in macchina, perché stavo modulare, si metteva a voci, lei mi disturba il telefono. Ma il cognome è temporale? Pastorino. Pastorino, è lavoro? Lavoro. Ehi, cosa faceva questo? Ah, insegnante, boh, non so di che cosa. Era mezzo soggettone, magari. Ah, perché? Io ho avuto un pastorino insegnante di disegno tecnico, pensi a lui, un po' mezzo pelato, occhiali. Alla faccia del soggetto, il naso lungo come Pinocchio, le orecchie a sventola, a ferro di drò. Lui è noi cercato di andare ai geometri, e stiamo parlando, Marco, nel 70... Ero conosciuto nel 76-77 e che combinava, cassato il giorno per un poco, perché erano 3 anni, pensate, per mettermi a trapparlo dalle chiuse. Allora questa cosa dei partiti, che ancora non avevano mai ancora confermo, le volevo affondare tutti, ma un grazie, lasciamo questo, riplenica. Ma sì, destra nazionale. Gianni Pastorino. Molto Vittorio Luna Rossa, sapete sì. Sì, me l'ha detto. Me l'ha detto cosa stasera? Graziano. Dopo parlare un'altra sera con. Grazie sempre, non va bene. Non so se può andare a comunque. C'è ancora di uno. Non ho capito, cosa hai detto già? Gianni doppio rubro. Senta, che mi ha detto Graziano stasera. Molto, c'è il fino alle 10, ma io penso un tantino da me USB, non so, vabbè, sì, io lo conosco a quello io, mamma mia, Antonio, lo sai come si attaccava a quello, volevamo una maglia invece che una volta abbiamo montato l'antenna, ha detto un po' gattore, ascolta, l'ha detto il ma molto. contraria, uscire, ma era culo, tu, la televisione, e chi te l'ha data? No, ti indrago, della dittatura, ti appendo al muro. Cosa va fatto? Le fotografie, un giorno l'ho trovato, salendo nel mio palazzo, ho detto, scusi, chi sta cercando? Perché lo conoscevo, no? Sapevo che era mezzo sfuggito. Con la macchina fotografica, allora devo fare una fotografia a quell'antenna che devo fare una denuncia, non so che cosa, a quella di Torella, le tasco ti faccio una cosa, se non è di questo palazzo si accomodi fuori, cioè, ti raggio un mandato. Battaglie, vedi già. Allora tu conta, quando avevo piantato l'antenna, no? Quella che avevo preso da queste case abbandonate, l'avevo purtroppo tagliata, non risolvava più, no? E, cioè da 7 metri che era, mi sa, 6 metri di antenna, più o meno, anche di meno. Vabbè, tre volte il cavo mi avevo tagliato, tre volte, capito? E non mi va, scusa. Mi trovavo solo, tu conta, siamo 4, 8, 12, 16, 20, no, 4, 8, 12, 20 famiglie siamo, le 20 famiglie mi trovavo solo a questa qua vicino a me, solo allora e basta, entravo nel telefono, entravo nella televisione e nella radio, presa giù, nella radio anche, vabbè, ho avuto delle guerre, ma pure vedi, adesso la voce digitale terrestre non ho avuto più problemi. Io sono uscito anche in giornale, vero? Giornale, lo più rotto. Ma all'articolo sul giornale aveva fatto anche? Sì, aveva scritto dove le scopposte, il signore di Via Moris 30 disturba i televisori, no, che disturba tutto il vicinato col suo baracchino, che basta. Allora, conta, no? Che su hanno la mansarda, viene benissimo, la finestra piccolina, sotto gli viene bene, non mica ci mette tanto a salire sul tetto, ci vogliono, guarda, 5 minuti di orologio, 5 minuti tra salire, tagliare e scendere, 5 minuti. Oh già, ma era vero che disturbavi o era un'idea sua? Ah, questo non lo so io, lei dice che mi sentiva nel telefono, poi degli altri non ho mai sentito nessuno che si è lamentato, era solo lui che si lamentava di questo cordone, addirittura io avevo un amico che lavorava, che lavora tuttora alla Telecom, e mi ha detto guarda, se poi gli mando la squadra col telefono nuovo, magari c'è un telefono di quelli marocchini e gli entra, gli dico che devo controllare la linea e poi dico oh, signora questo telefono va bene, deve montare questo perché questo qui è fuori legge, e gli do il telefono così almeno è risolto il problema. Dico, no, assolutamente, è troppo bello dargli anche il telefono nuovo, sta bene così. Ma comunque va già, il digitale terrestre ci ha salvato molto, molto, perché con l'analogico è un casino, con il digitale bene o male riusciamo, poi ovvio se uno ha la propria messa male entra, però se l'altra è messa bene alla, diciamo le scatole a posto non sono aperte oppure non so, arrugginite, se no guarda che l'uomo non ho più avuto problemi, perciò poi, se ci sono problemi sanno dove venire, sono l'unico che ha da quel macchino qua. E tanto ne volete che sta disturbando anche adesso. A me solo una signora che abita salendo qua nella via ha detto che vede quadratini, che la TV è nuova, ma questo d'altronde me l'aveva detto anche quando non avevo antenna su, quindi sarà sicuramente antenna vecchia oppure boh. D'altronde anch'io vedo squadrettare su vari canali, ma non vado a rompere le balle anche alle radio. E pensano sempre che siano loro, capito? Oppure hanno gli amplificatori d'antenna a manetta, tutto a mano. manetta, in certi impianti dei palazzi, no? Dove c'è la centralina, tutto a manetta, il trimmer, tutti a manetta. E io credo che si tira dentro di tutto poi, anche un digitale. Per carità di Dio. Non si può avere un po' di pace questa vita, Bubu, stai travagliando, andrei a farti una modulata per stare un po' tranquillo e te non puoi mai fare. Quindi insomma va anche con trasmettevo in LPD. Insomma va anche lì, a lui ci va. Con 10 milliwatt. No, con 25. Con Luca, con? 25. 9 più 5. 25 watt. 25, cazzo, 9 più 5, 25. Vabbè, allora non è più LPD, è HPD. High power device. Guarda, sono una pro, adesso non l'avevo espresso. Perché lì è già più in UHF, invece in 27 c'è già una differenza abissale dalle frequenze TV. Ci siamo parecchietti, anche monobanda, UHF, bellini, vai in 446, però anziché con 500 mW RP, 45 watt. Guardate che non te lo trovino per te. Non c'è di fare. Oh, infatti. Poi macchina lo puoi mettere, perché tanto se te lo trovo è un casino. A casa è un casino lo stesso, perché si disturba. Contro i guivati, non lo fai. Per non c'è vicino. Non vicino, guardaci che va. Per voi sono tanti, per noi sono sempre buchi. Ok, sto usando adesso un paracchino come il caso di essere di 124 ore. Fa cagare, non c'è arrabbi. Come la prova a fare di fare, la marcetta a poco scala. Adesso chiaro che si crea fuori, la sera sta buona partita da poco. Ok, il fatto questi qua però io non l'ho mai capito. Cioè, a casa quando ero vacato, il baracchino era sotto il carrello, claro, da 13 ore, e non mi turbato, vabbè, e le antenne erano anche visibili nel tetto, o c'era una delle migliori cose, diciamo, di queste signore, meno male, e poi l'avevano cambiata, non mi turbava più, perché avevano queste migliori stessi, proprio, allora, stiamo parlando degli anni 70, queste televisioni erano le televisioni, mi sembra che aveva un canale solo quella riuscivate, ma intanto la cosa era seria, perché c'era quest'altro mio zio che non abita più qui, quello che mi ha incontrato nelle radio, e lì era una guerra, e lì è arrivato anche alle quattro contento, hai capito che non potevo vedere il televisore, poi quello lì non è che lo spegneva, adesso c'è la pianta, sono capitato una volta, ma cos'è, ma niente, cos'è? Questo signore è stato un po' contento, che ha più paesi pure. Una volta avevo preso c'era quel baracchino l'Ixtal che già disturbava terribilmente, avevo preso un B30 da Adriano senza tararlo né niente, attacco, lo attacco al baracchino e c'è la TV accesa, prendo la portante, boom, schermo nero terrificante, non dava niente di watt e disturbava terribilmente, tutte le armoniche li dava sicuramente, poi Pomponio l'aveva tarato, dava 30 watt circa e non disturbava più. Cazzo, Pomponio è un mago. Vabbè, no, ma allucinante questo linearetto, e l'antenna era parato a fianco alla mia antenna, premevi, boom, schermo nero, audio zero, era allucinante. Pensate che quell'Ixtal americano usciva squillante, ma era fortissima la modulazione, ma disturbava terribilmente, tutto vicinato, c'era Guarino che non ne poteva più la vita, io ero andato al cinema all'Ariston e ho sentito la voce di mamma nelle casse del cinema, allucinante. Infatti avevano chiamato le scoposte, ci stavano dando la caccia. Noi sai che l'onfiata avevamo fatto, che la residenza avevamo messo a questa di adesso, no? In via Nizza. Invece poi noi eravamo in Viale Mameli e le scoposte se ne accorta, aveva mandato una raccomandata, in qualche modo si erano accorti che qua non c'era nessuno, o meglio avevamo gli studenti, e allora l'avevano corretta in rosso e l'avevano rispedita al vero domicilio di allora. Abbiamo rischiato che sospendessero la concessione, perché era specificato che bisognava comunicare tempestivamente ogni cambio di residenza. No, o meglio, la residenza ce l'avevamo qui, però domicilio eravamo in Viale Mameli. Dice Pericolo sempre. E a quei tempi erano più fiscali. Tu pensa che noi abbiamo ritardato il pagamento della concessione, abbiamo superato il 31 gennaio, abbiamo pagato dopo il 31 gennaio, ci arriva la raccomandata, la concessione è decaduta, capito? E pochi giorni di ritardo, poi i 15.000 lire ce li sono tenuti. Sapevi che non scade, non avevo più pagato altro. Quindi Claudio, non scade, a noi ce l'hanno, ci hanno mandato la lettera, concessione numero 8 intestata è decaduta. No, a me non mi è mai successo. Questo volete da dire, la radio va bene, ma l'altro fa schifo. Buono, era il posto, tra l'altro, questi garage che tutti l'ha rovinato, l'ha lasciato lì, quello che aveva venuto a fondo, già di Capricorno. Questo me l'ha venuto sempre, ma per l'altro che ha venuto lì, l'ha provato tutto il terzo posto. E capito, l'altro l'ho provato a provare, questo sistema, di cui non so che si è attaccato, era tanto avanzioso, me ne sono privato, perché mi ero appena scordato, ma me lo mai adesso già, mi da post-crediti, però non me ne prendeva più da lì, la casa ormai stava per mangiare il montaggio, niente, me l'ho dato, poi non so che cazzo mi si è attaccato, è andata la grave, e non è più, non lo più niente, non so se ha ma lo sai chi è che la forse l'hai modulato, o anche tu già, con te Dracula, l'hai modulato, vai. Sì, l'ho sentito che parte qualche volta. Comunque il pace è quello che esce meglio, quello che dice Baracchini, il pace è quello che va meglio. Ma che trovare del mucche. No, ce l'ho portato di mano, mi faccio attaccare un filo. E capito, cercare il cazzo, l'alimentazione, infatti quello è il pace è 123. No, che mi ha detto che ne ha recuperato uno, con lì è sei fuori frequenza, chi sta breccando è fuori frequenza, centrati, 27.015, sì, ne uno io, faccio 123, esce molto bene, avanti chi è che vuole entrare? Sì, si sentiva qualcuno fuori frequenza, a cavallo di due canali. Sicuramente c'è cioè, voi forse ho fatto, o sul delta tuna è tutta a destra o tutta a sinistra o lo shift è tutto a destra o tutto a sinistra, bisogna vedere, non ho capito chi è. Ok, cosa stavo dicendo, non veramente dire. io vi saluto perché vi sto addormentando. Non ho riposato niente oggi, non c'è più cosa da fare. Ciao Gianni, ciao Caprilua, Luca, Marco, Antonello, Alessio, se c'è. Chiunque fosse in ascolto, buonanotte a tutti, a te doppio numero, quindi. Ciao Claudio, buon correttivo e buon trabacco per domani. Avanti Luca. Ciao Clara, saluto e buonanotte. A domani. Avanti, va. Ho sbagliato io adesso. Ciao Claudio, buonanotte. Avanti Capri 2. Ciao Claudio, buonanotte. Buon tutto per domani. Io mi ero dimenticato anche di sera Luca. Stiamo diventando un rincoglionisti. Buonasera con Luca. Allora parla per te. Bisogna cercare, stiamo di alimentare quella che non può attendere, ma non va a bocca a una cosa, hai capito? Non ho soccorso perché era per volare un bel, e stasera stavo con il contact, non lo so cosa andrà a bocca, perché il segnale già mi dicevi che può, e c'è qualche cosa lì, la valvola della comunicazione, dell'audio, io che qualche condensatore, perché lui l'ha controllato, e avevo anche preso, che me ne ha preso parecchi, perché a Cagliari adesso mi aveva demolito e andiamo a posto per spiegarmi questo, però c'è qualche cosa già di qui, bisogna misurare le tensioni, qualche resistenza che sia a posto, perché questo rimane con fermo, e capito, il mio ha fatto molto a fine, da lasciarlo fermo andava che è una canovata il mio contatto, solo il garage vorrei essere a posto, però rimarrà così perché qui c'è troppa roba, non devo più fare niente. Aggiustando l'aria e facendo, però ogni tanto mi piace anche la costruzione perché sono stato sempre affascinato, riprendi già. E io rimango curioso, dai, ripetete voi che sta ascolto, mi sono senza voce anche. Segnale Marco, quanto è di segnale? Quanto ti sono arrivato a, con questo apparato di segnale? 9 pieno, c'è qualcuno che sta chiamando, non è centrato, che faccia un passaggio lungo e cerco di centrarlo. Boh, lo sento a cavallo di due canali, non capisco se è più sotto o più sopra. Marco, la radio mia qual è meglio, questa o quella del microfono amplificato? Ah, che è la stessa radio col mic amplificato. Sono simili già, ho notato che sono simili, sembrava l'amplificato stesso. Allora, è presente il Magnum? No, quella è limpida, limpida, è una cosa eccezionale. Questa è diversa, diversa. Non è limpida. Guarda, io se potessi fartelo sentire... Io ho registrato l'altra già comunque, quel passaggio di prima con tutti i toni. Più o meno siamo lì. Questa è un po' più muffled, gli inglesi direbbero muffled, muffled. Che stavo dicendo? Non mi ricordo. E vabbè, sarà per un periodo. Ma cosa questo della ricordatoria? Io ho problemi, non ho mai messo rifatto, anzi. Mi se ne frega, chi è lui? Che vuole? Dove va? Da dove viene? Dai che pacco di patatine di cibo. Pacco di patatine? Era stesso pezzo. Avanti chi chiamava? Chi è che stava chiamando fuori frequenza? Che faccia un passaggio lungo. Marco, ma tu sei? No, no, negativo, sei fuori. A Sandro di Porto Torres, mi sembra, non sono sicuro. Marco Scorpio, Marco, tu sei? Io sono sul canale 5 in AM. Non ti posso trovare perché sono con un Midland 40 canali, dai, non riesco a... Non riesco, non ho frequenzimetro. Marco, ne è stato. contro apparecchio 6, col Galaxy. Allora, Gianni, c'è Marco che è intorno ai 27 007 008, una cosa del genere. Purtroppo anche questo è largo e non mi permette di capire esattamente quanto è centrato uno, capito? Ci vorrebbe un apparecchio che ha la possibilità di stringere la banda passante. Chi c'è rimasto qua? Allora, Capri 2, Topio Room, Luca, Antonello è rientrato, boh. Chiama. Io avrebbe risposto. Antonius. Cucciu, è Marco, risolto. Io? No, è sempre spostato e... Ah, lui sta dicendo, scusa. Marco scrive, Marco lo scorpio. È visibilmente spostato. Vediamo un po' se riesce, guarda, a orecchio, 27 0015, punto 00, più o meno, vediamo se riesce a centrarci. Oh, può darsi che lui diceva anche bene, ma si è spostato in trasmissione, dipende che apparato è. Roba vecchia, con questo sono sicuramente a posto. Ciao, buonasera a tutti, Marco Scorci. Adesso sì, prima eri fortemente fuori, tipo 6-7 kHz, forse anche di più. Buonasera, c'è Capri 2, Doppio Room, Luca, Belmonte, poi non mi ricordo. Via, ciao, buonasera a tutti. Sì, stavo provando un cicaffuso, ma è da rivedere. Va bene, con questo credo che invece mi sentiate bene, ho messo in funzione il Galaxy, questo era a posto. Ciao, buonasera a tutti, io sono l'antenna a Gianni Doppio Room. Ciao Marco, ti saluto, buonasera, non posso parlare molto, sto in QRX, ho problemi qua, condominiali, avanti Marco. Marco, sento una starnata di fondo, distinta, devo farci l'orecchio, ma c'è. Mi chiedi conferma Gianni, metti portante muta. No, è che era vicino alla ventola di uno degli apparati, così sicuramente non c'è più niente. Sì, esatto. Infatti devo, ogni volta che metto in funzione questo mi devo ricordare, devo spostare il microfono dalla posizione in cui normalmente è in uso. Però adesso va bene, esce bene. Segnale 6 tra 9.15 e 9.20. Io adesso sto usando circa 8 watt, seppure, 7-8 watt. E tu sei 9 più 10, qua sto usando tutta la potenza del Galaxy Saturn, non c'è adesso il wattmeter collegato, c'è solo lo strumento per le stazionarie. E mi stavo lamentando che il 140 non ha possibilità di mettere nessuna modalità narrow per capire esattamente dove eri, capito? Ti sentivo tipo a cavallo tra il 7 e l'8 kHz, tipo 007 e 008. Purtroppo il 140 in realtà è largo come un baracchino di ricezione, perché per perdere uno devi andare molto sopra. C'è un filtro a 6 kHz come normalmente hanno gli apparati, è così. Io ho visto che a voi riuscivo a ricevervi, ma non è la portante che viene spostata rispetto alla frequenza di ricezione. Ma veramente nei canali alti va bene, e nei canali bassi che incomincia un po' a incasinarsi. Vabbè, sarà da verificare, mentre questo credo che questo è recente, credo che funziona bene. Va bene, Gianni, allora, Gianni Doppio Room non può parlare, non può fare, ma ce l'ho più di tanto, ma giriamo l'antenna a Luca, allora, vicino di casa. Ciao Luca, buonasera, Marco Scorpio. Ciao Marco, saluto anche a te, adesso qua mi ascolto anch'io. Bene, proprio. Avanti, c'è anche Pompu, se non sbaglio. Avanti, Pompu. probabilmente si è avvinghiato a qualche cassa di birra. Ah, così è. E c'era anche Capri 2, no? Capri c'è ancora, ci sei Gianni? Bene, buonasera Marco, salutissimi, Gianni Capri 2 da questa parte che si sente con pianista, ho visto il segnale comunque alla mia stazione, sto usando un apparato di Somercam 7-724S, da paranobile da paradisci parte di para. Ok. Alla grande Marco, ti rimetto il cambio, come va? Tutto bene già, tutto bene. Bene, sì, 24S, ecco qua. Sono andato a rivedere come era fatto questo apparato, un veicolare, vedo. Vedo, 23 canali. E comunque c'è bene, arrivi, non ci sono problemi già. E questo sarà degli anni, della seconda parte degli anni 70, ne sa più o meno, giudicare dalle forme, dovrebbe essere di quel periodo. Senz'altro perché hai capito, non c'è di quel periodo lì, ma anche tu ce l'hai nella collezione. No, già, io veicolari ho pochi pezzi, pochi profili, pochi pezzi, non mi sono dedicato, non so perché, non mi, forse qualche cosa che mi piace, tipo il 50-24, il pace 123, l'HV23, qualcuno di quelli così mi piace, ma non preferisco, se ce la spendere dei soldi, comprare un base in più, ma un base, io solo cose base, solo apparati base. Anzi, proprio l'altro giorno ho rimesso in funzione l'SBE, che ho visto che con un microfono, con un Intec funziona molto bene, con un Intec 500 che mi ha dato Claudio. Aprire quelle SBE perché lo puoi attaccare al posto, mancano, te l'ho detto, vari, diciamo, io fanno lo schema che ho fatto da quelle che hai mandato, però le alcuni mi mancano ancora, capito? Per esempio sotto la batteria c'è il compressione, io voglio vedere quegli alcuni piano per farmi, e dopo lo rimetto in funzione, poi c'è anche colui che ha il fuoco, non so se il fuoco. Però ho fatto lo schema, ho fatto come si vede lo schema. E così si è apparati, pensa un pochettino che nel mese di ultimi di gennaio ho procurato l'HP23, il classico HP23 e anche il primo HP23 Mario, che è uscito nel 1967, che ho due secondi. Complimenti. Di quel periodo il Comstat, uno dei primi Comstat, completare Comstat 19, molto, molto particolare, proprio di quel periodo, dal 63-64, per un po' di anni l'avevano prodotto, forse mi pare sino al 67-68, poi avevano fatto gli altri, avevano cambiato modello e anche per forma, questo è un po' più arrotondato. Se riesco a breve, mancano due valvole e poi lo facciamo funzionare. Va bene, allora ci andiamo per Gianni Doppio Russo e può riprendere, altrimenti ancora per Marco e magari, guarda, stacco l'antenna dal Galaxy, faccio giusto un passaggio con il Super Console. Per valvole si mancano, c'è un indirizzo di una stufa, se ce n'è un casino, nuove, no, in continente, roba di magazzino, che non so. Sicuramente sto cambiando apparato. Doppio rum, comunque tu, anche se parli sottovoce così piano piano, ti sentiamo bene lo stesso. Io sto provando a parlare piano, vedo che il modulatore sale, anche sottovoce ci sentiamo lo stesso. Da. Sì, a meno che questo tipo non metta lo stetoscopio sul muro per ascoltare i rumori, vabbè, io non ci avrei dato peso più di tanto, però poi ho capito che tipo è, quindi detto tutto, là. Allora, Luca, un giro di Mike. Sì, guardate, però ho colpito, se va il giro di Mike. Occhia questa influenza che c'è in giro, Occhia, forse anche io sono un po' rauco. Adesso sono in funzione col super console, aspetta che stacco l'altro. Ecco qua. Come va questo qua? La modulazione sta uscendo, sembra che sia tutto a posto. Sì, va. Tante Marco, arriva sempre con quel segnale di 9,5. Allora, mi stavo dicendo, si mancano delle valvole del conto, quindi la fila. Allora, aspetta, perché ce le ho segnate, mi pare le ho segnate sul telefono. Valvole, ancora esistono le valvole. Chi ce l'ha? Tecno? No, se non ho, la dirò io l'indirizzo da dove ordinare a prezzi accessibili. Io ho fatto le 50 e ho preso un bei valvole, poi ho preso l'altro indirizzo, e sono nuovo di secca, ma ho scoperto abbastanza sbagliato. Non so, le valvole anche roba di radio antiche, persino quei cosi dove c'è l'autoparlante, come si chiama il palmo, dopo che c'è ancora l'autoparlante della radio, stiamo per mangiare tutta questa, ripresi Marco, sì? Sì, allora, le valvole sono la 6AQ5A e la 6BJ6, queste sono le due valvole che devo sostituire. Senti un attimo che io mi collego all'attimo a vedere le segnali, non costano manco molto, ma subito dopo le ordinate, e che 4-5 euro porteranno di la via. Ecco, buona, buonasera. Ciao Sandro. Ciao Gianni Capridura, buonasera. Salutoni di tutta la ruota, Sandro Porto Torres. Ciao Sandro, buonasera, Marco Scorpio. Buonasera Marco, ben ascoltato per la premiera. Stavo spazzolando, ma vabbè. Hai fatto bene a fermarti, siamo qua in corso, facciamo girare per Marco. Marco, riprendi e così per i saluti all'amico. Ciao Sandro, Marco Condor da questa parte. C'è anche all'ascolto Gianni Doppio Rum, avevi capri due, lo sai già, poi proponio e latitante, era qui, poi è sparito del nulla. Avanti. Certo, ok. Ciao Marco, buonasera, ben ascoltato anche a te, dai. Vabbè. Evidentemente Gianni e Marco evidentemente sono imbaffarati in altro. Ok, va bene. Mi avete stimolato un attimino con queste valvole e io sono alla ricerca un attimino delle valvole, le L519. Sto impazzendo, infatti volevo un attimino chiedere a Gianni se per caso lui avesse qualcosa o qualche punto di riferimento. Rilancio il mic tutto lì a Gianni Capridua. Mi sa che questo tablet che sto guardando, hai capito, e quindi vediamo un attimino. Allora, dato questo aspetto sulla sigla, dimmi la sigla di Sandro. Gianni, la sigla sono le classiche L519. Sai benissimo che prima precedono le L509 e poi poi più avanti diciamo L519. Qua In internet c'erano a 4 euro, a 5, a 3,80, c'erano un po' di prezzi, però insomma siamo lì, cambia niente. Come sta a posto, il PM50P, come sta a posto, con la linea sopra, il fissore, lo cambiate, me ne manca, ma solo una, la 60, però mi ha fatto pagare la Giovanna, la S82, il colore 84, ma è una come tutti, me la faccio pagare pure, l'altra come non mi lavora a casa, però io ho altri 15 euro, non li voglio aspettare, ma guardo, ho capito, funziona, perché come la sedia a sé ho visto che funziona alla grande, però io sono molto pignolo e quella valvola l'avevo posto originale. Ecco, vediamo già fatto, se no fa che questa Patrizia è però un limone di 25 euro qua, questo mio zio, c'è una radio, siccome ha fatto la radio elettra, io. E ha detto se si buscava le valvole, ho detto che questa qui che sta appunto anche il fango, lo facevo toccare, già tutti questi per questa radio. E mi deve dare una sigla, se ne ultima mettiamo in mezzo anche quella valvola mancante che mi manca. Ok, perfetto, no, ma lo sai cos'è, ma magari secondo come le trovi, queste gare nuove. Sì, stavo vedendo, stavo un po' leggendo tutte le varie cose. E giriamo per l'amico di poco fa che ha chiesto per le valvole lineari, avanti che non ho segnato il suo nome, ciao, avanti. Sì, Sandro Pondantone siamo. Ah, ecco Sandro, non l'ho segnato. Sandro? Niente. Oh Luca, com'è questa modulazione con questo old transceiver? So, lusso. Questo è vecchietto, è lo stesso, questo è del 70, più 71, 72, una cosa del genere. Benissimo, bella modulazione, bella, bella. Vabbè, se qualche vicino va, non conta niente quello. Va bene, questa è tosta. No, infatti non è importante il segnale si può far aumentare o diminuire a seconda di che cosa uno poi si attacca. Questo sarà sui 4 watt, 3,5-4 watt la potenza. No, questo è originale, non c'è neanche nessuno le mani al circuito, ma veramente uno spettacolo. L'ho acquistato da una collezione che aveva un radioamatore italiano, ma ti dico, guarda, sembra acquistato oggi. Ci sono le manopole, i vetrini cromati, fiammanti, veramente un gioiello. Fra l'altro di questo ne hanno fatto veramente pochi esemplari. Poco visto, è veramente originale per forma, per dimensioni, un bel bestione grande. Qui c'è questo sistema di scanner, pseudo scanner con luce rossa che circola, sembra la giostra. Rientrato. No, sia bene. Ma non è a valvola, no? No, è a transistor questo. Allora, di quelli con l'orologio, no, sai bene come sono, con la cassa in legno, ma in legno vero, non di metallo rivestito di plastica finto legno. Ma lascia bene. Questo c'è anche, è abbinato a un microfono Intec, che tra l'altro dispone di potenti effetti come puoi sentire, oppure toglierli. No, va bene, bella, ma l'ha pulita. Vabbè, via. Ma hai aggiunto qualche antenna su te, sì? Ah no, più o meno sempre le solite cose. C'è il traliccio il primo che è c'è da fare un po' di lavori. Adesso sono giù un po' di antenne, come incomincia a fare un po' bel tempo e si possono avviare i lavori, riprendo a riinstallare, c'ho ancora altre cose da provare, devo rimettere su, ma ci vogliono più giorni di belli, non ti puoi fidare, se no incominci i lavori e non puoi sospendere perché piove, capito? Bisogna che il tempo si sia stabilizzato. Vabbè, ci vuole anche tempo buono, certo. Però questo freddo. Io sono ancora residui di tosse, di mal di gola, peggio è passato, mamma mia, è caduta poi, ma me l'ha ucciso. Avanti Marco, Condorino. Ehi, mi ho sentato per dare un'occhiata a quel sito, quello di Patrizia, eccetera, ma l'L519 mi pare che non l'ho vista, no? Oh, c'è ancora Sandro Tigre? A quel sito di Patrizia, ho visto del parco, ho verificato alla seconda ci sono anche due commentatori, dei commentatori, ma capisco, ai vari non si riescono a trovare, capisco, e ho visto su eBay una valvola L519 mi pare, russa, marca Svetlana, ma costa 45 euro una valvola, così è, quella è per il BV tipo 2001, sbaglio. No, scompare proprio lui. Mi ha chiesto di volte su questo quello valvole di sarebbe, però c'è anche cominciato quello, perché è proprio altre cose, anche un pensore poverello, all'epoca, ho capito, ma non so se lo sei guardato, non completo, anche altri e ogni tanto ti abbassi perché forse ti allontani dal mic appena appena. E infatti la ZG non ne fa più BV 2001, se non sbaglio, ce li ha sì sul sito, ma mi pare che stia vendendo tutti gli amplificatori, come li chiama lui, stato solido con transistor, immagino MOSFET. Perché c'è un limite minimo di 25 euro e a me mi servono solo due di valvole al momento, perciò dovrò vedere se mi conviene, se no riprendo un'altra parte. Stavo guardando la valvola che diceva L519 e non l'ho trovata. Adesso poi stavo guardando l'applicatore di 2001 che ho avuto tantissimi anni fa, non mi ricordavo quali fossero le caratteristiche, stavo dando un'occhiata, 649 parla qui ma non dice né SSB, 16 kg eccetera eccetera. Le Svetlana sono delle ottime valvole, comunque sono fatte bene quelle Svetlana, bella azienda. E a livello di piedinatura è la stessa, sì? Se è un equivalente non ci sono problemi, lo zoccolo rimane sempre lo stesso. Sì, peraltro il venditore specifica proprio per lineare il DTG oppure RM Italy, che lo stesso faceva qualcosa, si chiama KLV qualcosa, adesso non mi viene la sigla. Sono sul indirizzo, guarda questo indirizzo, Radio Calica di Daniela Felicia a Trieste, questo c'ha altri interessati, però è cara, è un contatto a sempre denaro di 24. Guarda che copiato il corretto. Sì, ho già trovato, adesso guardo. Ma tutte donne sono? Questo c'è un amico a Trieste che comanda l'educazione, c'è un compagno a questo cittadino, che c'è questo palmo, che c'è posso fare le tavole che di quei 15 volumi, però non capisco che ne manca una su una somma in carte che sta fatta anche a fare, però mi ha detto tutti che non ho capito perché non trovo la roba niente, però sono montato lì da 6 piatti e sono molto. E poi da lì ci metto anche la mia in mezzo, quindi con la mia prima io praticamente la pagherò 4-5 e solo, non 15. E stessa storia dei finali che non trovi più, i 1969, i MS1307, i privati se li comprano per conto loro, se li sono comprati in tempo utile adesso te li vendono a 30 euro l'uno, se non di più, i transistor no? Cosa me ne faccio? Ne so un però ormai date sono troppe, mi capisco, non è che non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, niente, non ho preso neanche sto poi da fare con la nostra, perché sarà chi si sono sempre diciamo niente, a fare qualche cosa non si può fare un attimo. Nemmeno a me che non ne ho soldi e poi poco che ho lo disprezzo il denaro, non so perché, forse perché non me lo sono mai sudato, quindi per me vale poco. Ok, vediamo se è rientrato Marco. Sì, sono qua sto cercando se c'è qualcosa qua di interessante, vediamo un pochino. Ma io per quanto concerne il discorso del tramandare o del lasciare o fare, me ne infischio, penso a questo momento, no? Alle cose che ho, che mi piace avere, provare, usare, ecco, non non piacciono le cose tattiche, nel senso che chiuse le vetrinette, no, io se ce l'ho devo usare, anche più costa più lo devo usare, perché secondo me il concetto è quello, perciò non ci penso al domani, che cosa succederà, chi le prenderà, ma chi se ne frega. sapere molto, per me è quello che faccio tutto, in un caso ho fatto tutto, ho lasciato solo un mancoso, ho lavorato un mancoso, ho lasciato una festa, ho lasciato un po' della diploma, sono stato ho fatto un piano di qualche altro stato di tutto, ho lasciato, e io non ho preso un mancoso, perché la discussione è stata una cosa che è stata una cosa che è stata una cosa che è stata una cosa che è stata una cosa che è stata una cosa che è stata una cosa che è stata una cosa che è stata una cosa che è stata una cosa che è stata una cosa che è stata una cosa che è stata una cosa che è stata una cosa che è stata una e ancora ma la pubblicità poi sto per volare partita se è compiuto ma con la pubblicità e non ho una volta però mi do un caso però come se è molto attivato ehi, se ci pensi, magari tuo figlio ci buttano tutto lei. Boh, è un pezzo di storia che se ne va. E allora fai così, fai uno scritto e lasci le tue radio agli amanti del genere, non lo so, perché a buttarle è un crimine. Non le troverai mai più certe radio. Questo è un po' forte, questo è un po' basso. Sempre così, ho distorto. Ciao, mi capi due, cosa ti vuoi andare? Dici in basso, o è troppo sparato, o è troppo basso. La radio qua viene, controlla qualcosa. Sono bloccato, bloccatolino, come Marco lì la cosa? Qui da me cioè, ci sono dei momenti dove proprio non hai, non c'è voce, non sento niente. Sembra come che lasci il microfono col PTT inserito e poi ti allontani di vai in un'altra stanza. Poi aumenti, poi c'è cioè, repentino il cambio di intensità, ma se, fra l'altro un'emissione che sembra quasi fuori frequenza. Però vabbè, d'altronde la radio c'ha i suoi anni e bisogna rispettare gli anziani. Ok, comunque Marco io c'ho il coso inverso, vabbè io non ne ho radio d'epoca veramente. Io devo avere radio che posso usare in macchina, stazioni base non le posso offrire perché sono statiche, io tutte le radio vabbè sono veicolari, tutte quelle possedute da 84 a oggi, in stazioni base ne avevo una piccolina della Intec che però era un aborto di stazione base, però a tamponi ho sempre le funzioni. Capito, invece a me piacciono i base, ma base belli, cioè belle apparecchiature, ecco, cosa ti dica, ecco, tipo il Galaxy, le radio che ho sono il Tram, il DAC, il Realistic, questo della CBA, il Trinidad, cioè tutte radio, il Comstat, tutte radio che belle, importanti di quel periodo, insomma, il Per Simpson, il Simba, Bue, cosa mi viene in mente adesso. Insomma, quelle che il Courier, le radio che hanno segnato proprio nei vari anni la banda cittadina. Belle, 23 canali, o poi quelli più recenti sono 40 canali, molti non hanno FM, altri quasi tutti non ce l'hanno, tranne questi più recenti, insomma, gli altri non hanno neanche le FM, tranne in AM o in madraterà. è così, mi piace, ma li uso e li tengo sempre in funzione, perché se no ovviamente si deperiscono e si rovinano. Ogni tanto li accendo e mi piace così metterli in funzione. Infatti recentemente ho lanciato questa cosa delle radio vintage sul canale 20, che è una frequenza che utilizzo ancora oggi e ho sempre utilizzato dagli anni 70 sino adesso per monitorizzare la propagazione in 10 metri, visto che ci sono molti di più gli operatori della banda cittadina che non quelli delle frequenze radioamatoriali. E allora normalmente lascio la radio con la verticale accesa lì sul canale 20, ho sempre lasciato e magari facevo altro. Quando mi accorgevo insomma che c'era un po' di attività propagazione saliva, allora poi mi spostavo e allora così è venuto in mente di rilanciare con qualcuno degli amici che provengono sempre dalla banda cittadina, ritornare e andare anche a trasmissione a chiacchierare, così come stiamo facendo noi adesso, Marco. Sì, ho sentito qualcuno sotto, vediamo chi vuole entrare avanti. Ho sentito fischiare, sembrava una baramobile, quasi oscillava il segnale, vabbè. Poi ho notato che il DAC mi ha veramente colpito, come me l'ha detto Claudio, l'ho visto e bello, strano anche, sembra, come ha detto qualcuno, sembra un lineare più che una radio, se lo vedi così di primo acchito. E gli americani non hanno la simpatia per le FM, solo nei più recenti appunto, ma ho letto un forum di americani, diceva che l'FM è una mania degli europei, così hanno detto. Allora non si usava. E così come prima si usava a fare QSO in AM nelle frequenze radioamatoriali. E questo è rimasto in vita sino agli anni 80, la prima parte degli anni 80, e poi anche questo è scomparso, perché poi come capita le cose si evolvono, si è preferito più utilizzare banda laterali e solo raramente in certe circostanze capita di fare qualche QSO in emulazione ampiezza, no? Altrimenti si modula sempre in banda laterale o sia LSD o USB. E così nel tempo avvengono questi cambiamenti. Probabilmente l'FM non veniva utilizzata, allora neanche le radio, i progetti delle radio partivano con l'FM. Oramai poi ovviamente i nuovi apparati, ma i nuovi apparati tranne qualche raro caso, non, di base ad esempio non ce ne sono più, già da anni apparati base non ce ne sono, in base sono sempre sono un po' adattati, perché ormai il mercato si è talmente contratto e ristretto che non si investono più soldi su progetti, su apparati della banda cittadina, insomma ormai sono solo veicolari e tranne qualche raro caso, molto spesso vediamo ancora dei remake di radio degli anni 80, degli anni 90, che vengono ripresi e rielaborati, ma concettualmente sono sempre delle vecchie radio, che dirò tra l'altro che vecchie radio che funzionano comunque sempre molto, ma molto bene, tipo Superstar, che ancora c'è in vendita, Superstar, una radio degli anni 80, è ancora lì che viene commercializzata. Figurati se hanno ammortizzato quel progetto, visto che poi molto spesso questi progetti venivano distribuiti con diversi marchi e perciò le royalty di chi ha inventato quell'apparato ha veramente fatto bingo, un po' come la storia dei Colt, dei Galaxy e dei Petrus, di tutte le varie griff che sono state inserite su quel prodotto, che poi concettualmente era sempre lo stesso, cambiava solamente il brand che veniva inserito per la distribuzione e la vendita. Sì, Superstar, ma tu intendi Superstar veicolare tipo il 360 FM eccetera? Sì, quello lì, proprio quello, il Superstar 360. Io per esempio, siccome tutto SMD adesso mi sta proprio sullo stomaco l'SMD, perché ho avuto un apparato e una brutta esperienza. Mi sono accaparrato un 3009 della chiamata Super Joe Pix SS3009, praticamente un supporto al 3009, componenti classici, poi un Omega Force che, a parte qualche piccola schedina aggiuntiva, la scheda madre, tutta a componenti classici, e poi questo altro che si chiama Super Joe Pix 2000, che altri non è che un Superstar 3009 col frequenzimetro. Ha presente il Galaxy Pluto, ecco, che ha quei tastini quadrati a fianco allo smitter, poi ha un frequenzimetro con sole 5 cifre. Questo è la stessa cosa, però è cromato e ha soli 4 watt perché è in versione omologata. Ecco, anche questo componenti classici, a parte qualche schedina micro aggiuntiva. Li preferisco francamente a tutti questi di adesso, tipo, che ne so, l'Albrecht 5008 è quello che ha avuto, è un disastro, rientri di radiofrequenza per poco rosso, guarda, no, non mi è piaciuto niente brutto. Ripeto, sai, molto spesso può capitare che certe cose vecchie vadano meglio delle nuove, perché le cose nuove possono essere, il progetto delle cose nuove scaturiscono dalla necessità, che è quella di fare profitto, perciò risparmiare sui materiali e magari apparire più simpatico e coreograficamente più accattivante per scritte, luci, colori, forme, però poi prestazioni sotto i tacchi. Invece un vecchio apparato, concettualmente una scheda madre con componenti classici, un progetto degli anni 80, magari mi fa si azzera una figurina, molto più silenzioso, molto più bello con la modulazione, molto più stabile di frequenza, eccetera, eccetera, eccetera. E questo può capitare, perché probabilmente magari fare una radio di quelle di allora oggi costerebbe 4 volte tanto, e allora la competizione tra l'altro dei prezzi e tutti i fattori di economizzazione del progetto portano a fare una cosa che non sempre è all'altezza della situazione, e a tutti far rimpiangere il vecchio apparato che magari hai svenduto per comprare quello nuovo appena sfornato dal catalogo degli apparati prodotti da Marcuccio o distribuiti da aziende di riferimento, eccetera eccetera. È così Marco, però questo non significa che vengano prodotti oggi in SMD degli apparati eccezionalmente validi, perché buona parte degli apparati che io qui ho 3-6 metri, 9 metri di apparecchiature lineari qui nel banco delle apparecchiature, a parte quelle che sono lateralmente nelle scatole o sovrapposte eccetera, sono tutti in SMD. La tecnologia va avanti e riescono a fare delle cose strepitose, non sempre sono delle schifezze. Sì, quello è vero. Poi rilancio Capri 2. Purtroppo ho avuto un'esperienza con questo Albrecht 508 alias Magnum 257, piccolino, con un altro radio 400 canali MFM-SSB. Io almeno credo che sia stato un rientro, è bastato poco, ho avuto un problemino, poi quel caro signore di Lucca, il caro Franco, ha fatto finta di spedirlo alla ditta. Quando ho chiamato la CTE non l'ha mai spedito, non ha mai transitato presso di loro, hanno detto. Ha fatto finta di ripararlo, si è tenuto 8 mesi e è tornato peggio di prima l'apparato, capito? Quindi no, non ne voglio più sapere niente di SMD, quelli sono validi. La scheda è la solita EPT3006 nelle varie versioni, poi di vecchio mi è rimasto il Connex 4000, quello grigio, Connex 4000 Eco, sempre con la scheda EPT3006, anche quello valido. Poi mi sono rimasti l'FM500S, 548SX, poi avevo preso da poco un 48X all'usato, non so cosa ci sia dentro, però funziona bene. E poi mi era rimasto un Maxcom Il Maxon 7 è presente il portatile con valigetta, kit soccorso, antennina piccola, eccetera, accendi sigari, e mi pare che non ne ho altri, ecco. Sì, sì. Oh, chi è? Buonasera, avanti. Sono Marcolino, chi sei? Marcolino? Ah, chi sei? Walter? Mi sei fregato perché è uscito il naso dalla radio qua, dallo strumento è venuto fuori il naso. Poi c'è una zona di Cagliari che non ricorda. Non ne ho viste molti sui B, la verità. Vabbè, è normale. 240 canali, mando laterali, niente di che. Poi il colore grigio non ne siamo granché comunque. Ah, ma ci sono quelle, lo dicono sempre, non te con le stesse rua, adesso siamo ferrati in vendita. Ma quella è un'altra cosa. Meglio. A bu. Io penso l'altro. Venuto a fare santo e è tutto. Giriamo per Capri 2. Capri! Così qua ho cambiato apparato, vi stavo ascoltando, sto usando un Mila Vintage del 78, 1978, saltiamo in base. Ok, perfetto, saluto anche Walter con la buonasera, qui c'è il Capri 2 che ti supercordializza e ti rimette il cambio se mi ascolti. Avanti Walter! Sì, già ti ascolto Gianni, buonasera a te, a Marco e a me, e a tutti. Ti ascolto. Sono da un dipolo perché qua non ho altre possibilità di antenne. Spero mi ascoltiate. Sto usando un Alan 7007. Penso che mi sentiate bene. Almeno la volazione penso sia buona. Avanti Marco. Si è sentita la risata in V. Il modello dell'Ala è bello perché l'Ala aveva fatto 555, quello è un po' più grande ma è 7007 come modello dell'Ala, vabbè, con la scheda Colt però, mi raccomando. Questa scheda Colt la gente infatti sarà pagata quanto un baracchino. Oh, se tu frughi, ci sono degli Ala 48 con doppio modulatore, beep, scheda Colt, ecco, scheda Colt, tricket e tracket, luce agli ioni positivi, ripeto, 700 euro. Io l'avrei voluto vedere in faccia, non gli da 700 euro, comprare un'ala così, vabbè. Ecco un attimo per un saluto. Avanti Sandro, ci sei scomparso. Abbiamo chiamato un po' di volte ma abbiamo detto boh, Sandro deve essere andato in un'altra stanza a controllare al computer il sito delle valvole. Capa, sì, in effetti Marco, scusami, ma mi stavo documentando un attimino perché stai passando. No, volevo salutare Walter. Ciao Walter, buonasera, Sandro, Paolo Torres. Sandro, buonasera. Grazie per tutti che ti ricambio, hai un'ottima radio, non sei alternata, tutto perfetto, come va? Ok, ma diciamo che andiamo avanti dai, alla bella meglio se va avanti. Passo queste, non sei alternata poca, né ti sei alternata di te qua. Va bene Sandro, bene di aver sentito dopo tanto, Non l'ho più sentito sul vetro, ci vuole che ce lo sei qualche mattino in giro. Walter, guarda, riguardo all'alternata lo so, diciamo che è un pezzo tipo aiato e quindi l'alternata se la porta in se stesso, ti dico soltanto che è alimentato a 220, quindi mi hai già capito. Ho capito, bisogna comunque allora rivedere il trasformatore. Va bene, la lavorazione è buona, a parte questo piccolo problemino, non è niente male. E ci più uno non riusciva mai a di 10 metri con quello del sistema audio, per il resto, va? Ecco, buonasera. Capa, realizzato il becco. Ok, dai signori, io ne approfitto per salutarvi circolarmente, quanto domani si rinizia di nuovo, dai, tutto lì. Saluto di Walter, ben ascoltato, saluto di Marco, Gianni Capri 2, Marco Condo e poi scusandomi se se mi dimentico qualcuno. Ok, buona serata, buon proseguo di qualsiasi o buon ritiro da parte mia. Avanti, Walter. Questo è anch'io fra un po' una volta che domani mattina mi devo fare presto. Avanti, ciao, buonasera, a presto, avanti presto. Buonasera a tutti, Eugenio da Porto Torres, ciao Sandro, buonasera anche a te. Buonasera a tutti. E gatti Zidi. Ciao Eugenio, comunque. Ciao Sandro, buon quartiere, sentiamo. Avanti Marco Scorpio. In queste le ciao Sandro, alle prossime. Buona serata. C'è stato un altro break. Ciao, buonasera Eugenio, anche a te. Avanti break. 5-7 arrivi qui da me. Marco Scorpio, non hai detto chi sei, come, con chi sei, dove vai, 3x3 e qualche cos'altro. Sì. Elio Piuma? Ok, benissimo Elio Piuma. Ok, poi ci dirai da dove stai trasmettendo. Va bene, l'antenna Eugenio in Porto Torres fa girare per Gianni Doppio Room in ascolto. Per Gianni K2, perché Gianni Doppio Room è QRX. Buonasera, buonasera a tutti. Ma non mi ricordo che ci fosse frequenza. Buonasera anche all'amico Gianni Piuma, se ho capito bene che lo ascolto bassissimo qua a Porto Torres. Gianni. Riprenda uno che non mi ricordo chi ci ricorda. Ok, buonasera Eugenio, qui Gianni K2 che ti super cordializza, QTH e Muros, hai capito? E l'altro è Elio Piuma, che lo saluto cordialmente, modula mi sembra dal QTH di Usi, c'è anche Walter e Marco Codro, hai capito? Poi quando studi la ruota già gira. Riprendi Marco Condo, ti rimetto il cambio a te e fai girare, vai. Papa. Ciao Elio, ben risentito. L'antenna l'avete poi sistemata del tutto? Sì, stavate facendo le prove stasera. Un attimino, sì, ma stasera c'era Stefano anche, no? Stavate facendo le prove, ma eravate nell'ordine del 7 come segnale. Adesso sta arrivando, metti portante UPA e poi modula. Allora, adesso sei Santiago 5, portante muta, modulati 6, 6 e mezzo, quindi non so, la c'è l'antenna è più bassa di come era prima, ma confermi che era la Ringo? Ah, va bene, va, ho capito, dai, riprendi Marco. Sì, SL, benissimo, poi Elio Piuma, mi dirai se sì, Elio Piuma che trasmetteva tanti anni fa. Oppure no, molto bene. Sentiamo se c'è ancora Gianni Doppio Room, se vuole riprendere per salutare, oppure no. C'è anche Luca, che anche lui era in QRX, se non riprende Gianni Doppio Room magari riprende Luca, altrimenti se non riprende Luca a Gianni Capri. Avanti. Doppio Room non riprende. Gianni Doppio Room si è addormentato. Luca, ci sei ancora? Sì, sono qua all'ascolto, sono stato seduto a morire. QSL, va bene. Sandro Porto Torres, Sandro Tigre è andato via. E allora l'antenna a Gianni Capri2. Gianni adesso che ha parlato hai collegato, mi ha detto un sommercanto o no? Capri, attenzione Capri. Sì, eccolo qua. Sto usando un Midland modello 78574, stazione base degli ultimi anni 70, Marco. Adesso guardo com'è, va. Riprendi Walter. Io non lo sento più, ma non so se quel grassone è farmita, Gloria. È Elio Piuma di 20 anni fa. Ma quello grasso brutto, quel tappo. Elio, ha chiesto Walter se sì, quello grasso brutto, parole sue. Walter ha chiesto Elio Piuma se sei quello con naso lungo. Non solo, riferisci. Sì, Elio, Walter ha detto, e non solo. Walter qui arriva a 7, Santiago 7, tu dove sei Elio? In Sassari, o fuori Sassari? Ah giusto, a Usini è Elio, a Usini, quindi... E Walter non è nemmeno molto forte per Sassari, ma sei in direttiva o verticale, Walter? Facciamo un punto di polo, un pezzo di filo, così, non è un'antenna. a Udine e l'hanno rilegato là in basso. Vabbè, lo sento male, non poteva essere che lui messo male, dai. No, vabbè, l'antenna è come la mia, è una mezz'onda un po' accorciata, quindi rende così. Vabbè, io in più ho 50 metri di cavo, quindi il poco che guadagna l'antenna lo perdo in cavo io, capito? Io ne ho 64 metri, che ti può far piacere. Ma sul serio? Beh, vabbè, io purtroppo piano rialzato, l'antenna al quarto piano, ci sono 6 metri di palo, poi deve andare dal palo al parapetto, no, poi deve andare a destra, poi la discesa, poi dentro al terrazzino, e sono alcuni metri, più scende, eccetera, eccetera. Un casino. Ma c'è, anche per me è così. Vabbè, è l'ultimo, passava la moto, la verità. Io, ambasciatore, non porta pena. Elio ha detto che credeva fossi morto. È un portato che sentivi. Aspetta, riprendo io. Marco Scopi, infatti poco fa a volte mi ha detto, ma forse è quell'Elio Piuma che trasmetteva tanti anni fa. Ho detto, io mi ricordo anch'io questo nominativo, Elio Piuma, ho detto, ma sentiamo. Elio, ma dove lavoravi qui a Sassari? Mi sa che è anche vicino alle parti di dove abitavo io. Io abitavo in via Carso, figurati. Gli anni sono passati solo a te, io sono arrivato ragazzo invece. io sono arrivato un giovanotto. Andiamo bene, la mia antenna si vedeva dal ponte anche, c'avevo prima la Grand Play, poi c'avevo una Super Range Boost nei palazzi che davano proprio sulla, da via Casso davano sulla vallata di Romazza, e si vedeva benissimo dal ponte di Rosello, e poi c'avevano gli Asi, tre elementi, vabbè, questo nel 72, nel 71, 72, dopodiché era andato via da lì, da allora abito a Filippo e sono qua. Va bene, allora ben risentito dopo 30 anni, 20 anni, quanti anni sono passati, forse l'ultima volta ci siamo sentiti, ma con Walter ti sei sentito molte più volte. Ok, Walter sta usando un portatile 7007 della, che cos'è? Maxon, della Maxon. Elio Piuma, non so se sta sempre cantando, ogni tanto qualche strada l'ha fatta. Era bravo a imitare il luttorale, dato non mi sente, perché se non si gaga, capito? Ma quando è avuto il luttorale, infatti non è più stato cantato. Ma dove sta parlando questo qua? Piuma sta a Udine, a Udine c'è un allenatore anche nuovo, Riccardo, è un toscano. Guarda, ce ne vede uno nelle campagne, che è sempre col cane in campagna, in giro, e il portatile, quello è lui. Stavo usando un portatile? No, e lo Piuma non so cosa sta usando, sarà usando il nano lo stesso. Allora usiamo tutto il naso, mi sa che apriamo il club dei nasi. Comunque qua potuto smalarmi qua, dalle mie parti, si sente solo il tipo e basta. Oh, Piuma, preso Piuma, ascolti a me. Meno male, ogni tanto andiamo a fare un colpo di tosse. Eugenio. Poi Lubino Monti, come si va lì, siamo? Ma cosa va? Ancora residuo la tosse, poi la gola, per carità. Oh, c'è qualche messo in giro. Sicuramente. Passerà. Tanto queste cose vengono suoi vivi, no? E molto non gli viene niente. Avanti, Scorpion. Mettiti un paio di supporto. Culo tu. Oh, smettete, se no arriva Tonello. Ti piace, vatte, No, sorry. Se non serve a prendere, abbiamo un amico tra poco a casa. Sì, la mette dei vari. Insomma, sono quattro di Pontone, come si chiama? Smile, bello sguardo, dov'è? Ho capito. Lo sguardo componio, lo sguardo che fumi. Ci sta facendo una birretta. Ma fa un culo va. Ma come un fumatore va sta addosso, no bu. Che cattivo, ma il naso non riesce a bere. Infatti quello che si guarda, guarda, quello che si beve lui un giorno, io me lo bevo almeno in un mese. In un mese. E l'ho sentita questa storia, dice che se si prendeva i voti, tutto quello che si è bevuto l'ha visto. Sì, io me ne bevo mid'estate, quei peluccini freschi, no? Con qualche amico, tutti gli amici, ma se ne bevi, se no, 3-4, massimo 5 se già andato, perlomeno a me mi gripa, mi ammazza tutto. Vabbè. Per carità. Vabbè. Componi un'istituzione nel settore di chimica, avevamo detto. Vabbè, riprendi Ischia di capo. Luca, allora prova quelle birre, quelle olandesi o cosa sono, Orange Boom, 12 gradi, quella ti cuoce subito, però è buona, è molto buona. Ma riprendo io, ne approfitto per salutare che soffro dal sonno, se no quando facciamo il passaggio domani mi addormento come Gianni. Ok, perfetto, saluto Walter, saluto Eugenio, saluto Regno Piuma, Marco Scorpio, Marco Condo, Luca, Pomponio, tutti gli amici in ascolto, e passo in quelle di troppo perché mi sto addormentando e sono alle 6 in terra, mi alzo molto presto la mattina. Ok, vi auguro una buona notte a tutti e un buon proseguimento se vi tratterete su questo canale, riprendi Marco Scorpio. Capo già, ok, benissimo. Allora aspetta che qua attacchiamo questo, se no fa casotto. Ecco qua. Ciao Gianni, buonanotte, alle prossime. E anch'io ho un passaggio e poi mi sposto. Anzi, saluto già Eugenio, saluto Elio Piuma, abbiamo risentito, adesso ci risentiamo fra 30 anni. Ciao a Luca, ciao a tutti, ciao Walter, ci sentiamo su altre frequenze. Buonanotte, Marco Scorpio, no, QRT, qua spengo i vitaci. Ciao Marco, ciao a chi va, buonanotte, anch'io spengo tutto, anzi no, aspetta, manco un altro po', affinché si calma la tosse. Avanti un altro. Ciao Scorpio, ci risentiamo se coincide domani. Io dai, non mi andate, fatemi compagnia. Io sono di guardia, ormai sveglio. Dai, no, io devo andare presto a letto. Oggi c'ho un macello domani mattina, sa che cosa da fare. Ciao Capri, ciao Elio, fatti sentire, salutami all'altro, quello che fa le tue tese. Ciao Luca, ciao Sandro, insomma ciao a tutti. Ci sentiamo. Ciao. Sto più russo, e quello è un merlo, sarò mangiato subito, un merlone. Vabbè, ciao Capri 2, ciao. Ciao Walter, se sta chiudendo. E anche io vado. Devo andare a cena, dai, che ancora non ho cenato. Buonanotte a tutti, ciao Capri 2, Marco Scorpion, Walter, Eugenio, Elio Piuma, che più ne ha più ne metta, come dice Rocco Siffredi. Ciao Marco Condo, ciao, buonanotte. Ciao Marco, a domani se coincide, ciao. Anche a Luca, Luca, ciao. Luca, con il saluto di Rocco Siffredi? Ciao Luca. A Luca, i saluti da Rocco Siffredi. Stavate in varia. Vabbè, io non sono così freddo, ma li sto dietro. È meglio. Sì, no, fidati. Ciao, buonanotte, buonanotte a tutti. Spegnete, non fate finta di aver spento e poi rimanete in ascolto. O vi faccio squillare il telefono. No, ve ne andate, io mi lascio da Azzurra. Che asco, dobbiamo andare, poi rimane mai in occhio. Tutta la notte. Che questa volta l'abbiamo fatto, e mi ricordo che, caspita, porca miseria, 20 anni fa facevamo l'una alle due, se non peggio, ai tempi di Rosa Verde, di Rosetta, Monforte, eccetera, eccetera. Sì. E una o due volte siamo rimasti a chiacchierare sino alle 5 alle 6 del mattino, ma stanotte non è notte per queste cose. No, ho sbagliato Marco, non Rosa Verde, Altalena, e un avvocato era, mi pare modulava la via Le Mameli Bassa, non so se è presente, entrava solo la notte. Sì, a voglia. Abitava vicino a casa, io ero a casa, figurati. Ho capito, ehi, Altalena era, boh, di giorno era sconosciuta, entrava la notte con Rosetta, poi modulava mamma con loro, non io, io ascoltavo e basta, dimmi. E chi è la tua mamma? Magari la conosco. Guarda, aspetta, sa se era entrata con nome di Liu, infatti tutti la solita battutina, c'era Liu, poi Clara era il nome vero, no? Clara. E ci avrò parlato con Rosetta, fra l'altro Rosetta aveva preso una, guarda, aveva preso la radio mia che avevo cambiato, avevo portato da notari per comprare un apparato radioamatoriale e cosa era? Uno di questi Galaxy, non era Galaxy, quando i primi erano, era forse era un Petrus, la Fayette Petrus, nero sempre, però ovviamente non c'era né frequentino, per niente, era a banda, era vecchia sì. E l'aveva preso Rosetta, il mio, e ci sentivamo sempre, molte volte siamo arrivati a chiacchierare sino a tardi. Con Rosetta, Liu mi ricordo lo stesso, mi ricordo Liu, non tantissime volte, però ci siamo, abbiamo fatto questo, hai visto, guarda un po' come... E tu da ragazzino non entravi con la radio di tua madre? Sì, però più che altro la solita cerchia di amici, Armando, Pippo, eravamo i giovani, stavamo un po' sotto l'uno, sui canali sotto. Pomponio è un'istituzione, come ha detto Coso. Più che altro ascoltavo gli altri un po', quelli più sconosciuti, diciamo. Non già entravo, però non ero molto spigliato, vabbè, non lo sono nemmeno adesso, ma mi spiace una volta, è meglio. E Pippo fece un super Pippo? Sì, Giuseppe, eravamo amici una volta, ma no, vabbè, adesso ogni tanto ci salutiamo, punto e basta. E vabbè, capitano anche queste cose crescendo negli anni, e ogni tanto lo vedo passare davanti all'ufficio. Ehi, ho capito. Va bene. E io invece stavo sempre sui canali più su, stavo sempre oltre i 27-400. Ero sempre lì a fare chiamate, ero già fissato da allora con i DX e con i collegamenti lunga distanza, infatti sempre a caccia di antenne, prova, smonta, fai, e così. E così da allora e così sino ad oggi. E va bene, dai, ci risentiamo Marco, ciao, buonanotte, alle prossime. Va bene, buonanotte a tutti. Ciao Marco, ciao. Noi eravamo tantissimi su 12, tantissimi anni fa. I Kawasaki, chi altri c'era che non mi viene in mente adesso? Su 12? Sì. Oh, c'era Titanio, che ora è morto, poveraccio, Carlo Titanio, la città. Sì. Titanio era Titano, Carlo era morto. Silvestro, Zampa di Legno e tanti altri. Kawasaki, è la crema di Sassari Bassi. Tonino Kawasaki. Vi ricordo che... No, niente, frega, te ne ho sbagliato. Marco, tieni duro, vedrai che passerà. Oh, piuttosto, una cosa volevo chiedere, ma che fine ha fatto Carlo Sprimero? È scomparso da tutte le bande, credo. Sì, perché lui quando va in radio, se non sente cos'è che stavano facendo prima di Cagliari, la zona di Comex, se non sente Comex non entra. E adesso siccome ce l'ha testa in giù, deve stare attento perché sente solamente uomini e insomma... Lui tra Rocco Siffredi e gli altri, come si abbassa, se l'hanno incappettato, tutto non è partito che è stato lui. Ma no, era una curiosità perché... proprio, ammesso che abbia, non l'ho mai sentito in HF, nemmeno in passato, né in V, niente. V. Non ha mai parlato in HF, ha preso la licenza perché qualcuno gliel'ha fatta prendere, questo coglione, sta modulando. Però grazie a Dio poi è sparito, perché proprio quando uno non gli nasce, non gli nasce. Ha parlato qualche volta in WhatsApp così, ma poi ha visto che c'era Anna Mischi che aveva 80 anni, per 8 ore che non gli tirava, ha veduto la radio e se n'è andato. Ho capito. No, invece l'altro giorno ho sentito riaffiorare Gianni di una sorta dopo millenni. No, già stava pensando di entrare al baracchino, dice così, in giro, come si chiama? Fucchino. Asma. Gianni Asma. Aspetta, un altro di quelli che è. Lo chiamo figlioso del genere anche lui, perché dopo tanti anni che è andato, io lo sono in testa, è passato, e invece avevo messo una trappata. Ma... vabbè, è così con quel nasone che c'ha, il dottore del mio ha un asma bronchiale permanente, come respira, che si assorbe il microfono dentro il naso, non riesce a parlare. Mi ricordo un giorno stava parlando, accordando un lineare 1731, mi pare, mi si è scoppiato i condensatori, sono scoppiati, ha fatto un rumore, tutta la stanza che ha intuito, è entrata la moglie, c'è Graziella, magra magra, col mattarello che ha spaccato in testa. Ui ui, ma due tempi comunque. Ne verranno altri adesso. Vabbè, Luca, mi raccomando, si può fare i tempi di un farmacista, l'animatore. Ci sentiamo. Farmacia. Parliamo di naso, Ho sentito magra magra, ma sono sicuro. E non mi tornava qualcosa. Vabbè dai, se no qua non ne vado più. Faccio un attimo l'altro e ultimo. Vabbè. Ciao ciao, buonanotte Marco. Vedi che comunque è già passata, sono passati già tre quarti d'ora da quando abbiamo salutato e siamo ancora qua. E niente, è tutto, aiuto, andate a dormire, forza! Mi sono ricordato un'altra cosa, non mi ricordo chi fosse, non proprio non me lo ricordo, ma sui 146 mega c'era la Greffetta che sceglieva chi prendere per il culo sui vari canali, tipo Sandro Canel Gambero e compagnia cantante. Invece la signora Gambero aveva risposto bene alla volta. Sì, mi ricordo di avervi detto, buonasera signora, entri, ecco la gira dei miniguglioni. Siccome c'era già una sera, la avesse preso in giro a marito, no? Allora io sono entrato per ricordare, cioè, signora, dai, non si preoccupi, signora Gambero. Gambero, un cazzo, vai, prendo i miniguglioni, pure tu. Beh, finesse, vabbè. Ma Bettinti, adesso è tutto vuoto, non c'è il tanto, capito? La signora Gambero era fantastica, perché andava sempre avanti indietro. Vabbè, sono riuscito a vedere qualcuno che mi aveva interessato e altre cose. Va bene, dai, ci sentiamo. Saluto a Rosa Verde, se a posto. Rosa Verde, chi? Rosa Verde, boh, non so dove sia, se esiste ancora. Sarà morto, cosa? Ci sentiamo. Voi andate, che mi dovete fare compagnia. Ma Guardia Medica stai facendo? Sto facendo? Guardia Medica, hai detto che sei di guardia. No, no, ma sono fresciato, no. Guardia giurata. Per carità. Vabbè, per carità, avercelo quella volta. No, vabbè, niente a togliere alle guardie giurate, no, io non ce l'ho con la divisa. Vabbè, anche io, quello anch'io, sì, ho una repulsione per le divise varie, soprattutto quelle statali, ma quello è niente, un danno collaterale quello. Rispetto solo il giro di fuoco, e basta. Neanche tutti, alcuni di loro, neanche tutti. Okay. Io, no, aspetta, io rispetto la divisa e le divise del fuoco, la divisa, poi quella che c'è dentro... Perché la divisa in giro fuoco rispetto a tutte le altre, no? Ho capito, vabbè, allora abbiamo lo stesso problema. ma non è tanto la divisa, ma come hai detto tu, chi ci sta dentro, capito? Certi sono degli emeriti, alcuni sono in gamba. E nemmeno uno è in gamba quando sta la divisa, non c'è niente. Comunque niente, non faccio, io lavoro al posto. Ah, ok, va bene. Chi c'è rimasto qua? Un caso di dormito. No, sono qua. Corrotto me lo servente. Vabbè. Ah, sei di servizio. E oggi? E io di seconda, di guardia, dai, c'è così. Rapporto? Al posto. Dove ho preso? Al porto, sì. Oh, adesso a casa. Che sei cosa? A casa adesso. No, dire sei di servizio. Sì, perché devo rimanere a disposizione adesso. Adesso fra un po' scendo a lavoro. Capito? Sì, diciamo, reperibile. Esatto. Sto andando bene, io sono ignorante in materia. Ecco. Sono ignorante in materia. Sì, preso io la laurea di sicuro. A me avete chiamato? Allora, sto mangiando qualcosa, se no qua finisce troppo tardi la cosa. Chi c'è rimasto? Elio, c'è ancora? Buonanotte. Bene ragazzi, io mi saluto là, non mi sono accorto che era pesante da un quarto. Ciao a tutti, ci sentiamo domani. Che ora mi avvio. Ciao Eugenio, non rispondeva nessuno, credo avesse già chiuso, io sono andato in cucina a cominciare a mangiare qualcosetta e poi a pigliarmi un cardiovascolino perché mi puzza un po', sono un leggero fastidio al torace, ma casomai già mi leggete dopo domani sul giornale. Ciao, buonanotte. Ciao, ciao, ciao. Ciao Eugenio, buon lavoro, ciao Marco, domani, ciao a tutti, ciao. Ciao.